Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, benvenuti, sono le 14 e una manciata di secondi, Voice Anatomy, Radio 24, vicino a me tre personaggi che non riuscirò a gestire sicuramente, perché fanno... Come no. Ecco, buongiorno. Prova. Allora, alla mia destra, Max Pisu. Ciao, buongiorno, ciao a tutti. Vicino a te, un uomo che conosco molto poco, che è Roberto Ciufoli. Ciao. Cretino. Alla mia sinistra, invece, finalmente, un vero attore, comico, per tradizione e per contenuto. Anziano. Nino Formicola. C'è metà dei datteri, allora. In arte. Gaspare. Gaspare, e un bacio azzurro. Ovunque si trovi. Ebbene sì. Oggi dovete sapere, comincio sempre facendo gli auguri a una persona che è nata in questa giornata. Non è detto che sia ancora vivente, eccetera, ma che abbia regalato qualcosa con la voce, non soltanto. Oggi è la festa di tantissime persone importanti, come Eugène Ionesco, per esempio. Ok. Ma è la festa anche di Ilona Staller. Ma soprattutto che regalare ha regalato. Ma come no? Ha dato voce Ilona Staller. Per favore. Assurdo. Ma te le vai anche a cercare, però. Sì, non è Voice Anatomy, è Body Anatomy. È Anatomy e basta. Era per assurdo, lei di Ionesco. Per telefono c'è un nostro. Ionesco vicino a Staller. Esatto. Cioè, è meglio che Ionesco, una volta che sei entrato là, effettivamente, cioè, nel senso, ti ricordo che sono le 2:01, anzi è 2 adesso, no? Vabbè, che siamo sdoganati da Cruciani. Posso fare un augurio personale, che tanto non so se starà ascoltando, perché poi è un'attrice di livello, e quindi Alvia Reale, che è il suo compagno. Ma anche mio figlio oggi fa gli anni, dice, allora, però voi non sapete che un nostro collega è al telefono e fa gli anni anche lui. Auguri a tutti. Aspetta, c'è qui, pronto? Sì, buongiorno, buon pomeriggio, ciao ragazzi, buona domenica. Paolo Ruffini. Ciao Paolo. Ci sono io. Ciao ragazzi, ciao. Ciao Paolo. Paolo, attenzione a metterti fra Ionesco e la Staller, perché non so. Sì, ecco, è una posizione scomoda. Esattamente. Un po' da mantenere a Reno, però è una posizione scomoda. E purtroppo quando si entra in un ginepraio del genere. No, non sai. Poi oggi con gli ospiti giusti mi sembra. No, almeno speravo dall'altra parte, invece no, con te. Zero. No, è un poker infinito. Paolo, quanti anni facciamo quest'oggi? Si può dire? Facciamo 39 anni. Devo dire la verità. Eccoci, voi che l'avete frequentata già. Parolacce non si possono dire. Ha smesso di essere un nuovo comico. Next nuovo comico. Esatto, Nino, tu io sei... Tra l'altro chiedo scusa per la voce, perché venendo a Voice Anatomy uno dice, cacchio, sai, ti devi dare un tono. Esatto. Non mi riesce perché sono sfasciato, perché sto facendo un po' Colorado, un po' gli spettacoli, sto facendo uno spettacolo, dovrei venire a vederlo, faccio questo spettacolo con dei ragazzi down, è fantastico. Questa è una cosa bella. Dove siete, Paolo? Adesso guarda, ci fermiamo un po', poi riprendiamo a marzo, facciamo Roma al Sistina il 19 marzo e il 26 marzo al Nazionale di Milano, e poi un po' di altre date sparse. 19 marzo. Bello, poi come si intitola? Un grande abbraccio. No, è molto figo perché è uno spettacolo comico con questa compagnia, sono 5 ragazzi di Livorno che fanno proprio gli attori, insomma, ormai da tempo. Ed è tutto uno spettacolo sulle relazioni, ed è uno spettacolo che fa bene sicuramente a me, perché mi dà tanto. Io a volte mi dicono, ma tu fai questo spettacolo, sei altruista. Dico, no, sono un egoista totale, perché mi approfitto molto spesso della loro felicità e della confidenza che loro riescono a dare alla vita. E quindi l'abbiamo fatta anche ieri sera, ed è sempre un'emozione nuova perché c'è una grande dose di improvvisazione. No, è un grande show, sono molto contento. Guarda, io lo dico sempre, Paolo, che dovrebbe mancare un po' a tutti quel cromosoma, perché di amici down ne conosco tanti e sono liberi, sono affettuosi, rimangono dei bambini straordinari, quello che dovremmo non perdere noi. Riescono a dare del tuo alla vita, dico io. Ragazzi, un po' di filtri in meno. Hai visto che abbiamo chiamato una persona che ci ha dato profondità prima di andare nella leggerezza più assoluta. Chi se lo sarebbe aspettato da Paolo Ruffini? Siamo onesti. Esatto. Tutti stanno pensando, ma Paolo Ruffini, quindi direttore di TV 2000, ex direttore di TV. No, l'imbecille, quello che fa. Quello del pomodoro, tu di quello del pomodoro. Ah, ora che lo è. Quello del cinefanettone. bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Ho fatto bravo. Bene a farti fare gli auguri di questi personaggi, Paolo. Beh, vedi, finalmente qualcuno che fa qualcosa di importante, no, come Pino insegna, insomma. Va che... bene, io credo per Ciufoli Radio 24 finisce qui. Paolino, ti lasciamo ai tuoi cari alla domenica e a festeggiare degnamente prima di entrare negli Anta che c'entrerà. C'è già entrato, perché se compi, se compi 39 sei nei 40. Ho capito, però dai, no, dai, dai, vabbè, poi mamma mia. No, no, c'è un quarantenne, giù la maschera. Ho capito. Però calcola che io ne compio, io sono del 53, quindi ne ho compiuti 64. Ma io dico di avere 65, perché sono 65. Ma ne dimostri 65. Io ti guardavo quando ero piccolo, caro. Hai capito? Tipica frase angosciante. E ancora lo guardiamo. E ancora sono vivo, pensa a te. Sono un monumento della mia epoca improprio. Cioè, si visita da solo. Si visita, sì, in effetti. Paolino, auguri davvero di cuore. Ciao, Paolo. Ciao, un grande abbraccio. Eccoli qua. Ecco, allora, voi tre siete insieme per un motivo. Non è che camminavate insieme per Piazza dell'Indipendenza vicino alla stazione. Ci siamo presi un caffè, sì. Anzi, ti salutano quelli del bar. Esatto. Anzi, hanno detto se paghi il caffè, che ieri sei scappato via. Che pulciari, no? Siete voi dei pulciari orrendi. Intanto faccio i complimenti al mio amico e collega Roberto Ciufoli, perché c'è stata questa bellissima reunion nella premiata ditta, che poi non si è mai distaccato, perché io con lui insomma ho sempre lavorato e anche gli altri ci vediamo serenamente. Questa avventura sul web, che è il nuovo modo di comunicare, e se comunichi bene c'ha molte più soddisfazioni della televisione. Devo dire, dopo un giorno di programmazione sta oltre 200.000 visualizzazioni, perché a me tocca andare così come i dischi, cioè, quanti dischi hai venduto? No, quante visualizzazioni hai fatto? Cioè, che è un'altra cosa ancora. Ma bene, poi io mi è capitato di, non ho visto tutta la puntata, ho visto dei, dura 5 minuti, non ho visto tutta la puntata, visto no, pezzetti, ma non capivo, si è addormentato a metà, dai, è molto preso, no, perché sapevo come andava a finire. Ma non è però un dramma sociologico. Cioè, ma è molto divertente, dai. È molto divertente. Lo so che è divertente, abbiamo fatto qualcosa. A me è successo, ti dico la verità, è successo la stessa cosa che succedeva quando facevamo gli sketch ai tempi, finché c'è ditta c'è speranza. Questa è nello stesso stile. Insomma, io rido come se non l'avessimo fatti noi. E questo è bello. Ed è divertente. Cioè, mi sembra una cosa e mi colpisce questa cosa. O sarà perché a me mi preoccupa. Giustamente ad Antonino Valentino Formicola, detto Gaspare, Nino. Nino Gaspare, cioè, c'ho 14 nomi. È vero, è vero. Perché quello. Senti, poi... Scusa, ma una domanda, Pino, perché vedo qua sul banco della scrivania, sì, c'è una Treccani. C'è, sì, qualche riferimento a noi? No, questa è l'enciclopedia che serve poi a reggere il cronometro, sì, della giornata. Molto chic. Ignazio Bibita. Ignazio. No, rifammi sentire, non l'ho sentito. Io pensavo che il Pirla fosse Curruciani, ma invece no, vedo che è proprio, no, ma... è l'aria della radio proprio che migliora. Ecco. Dopo la festa di UNESCO, giustamente noi presentiamo. Però perché siete insieme? Siete insieme perché siete insieme a Teatro Parioli di Roma, dove fino al 3 dicembre. Fino al 3 dicembre con Sabbie Mobili, che poi è l'idea, normalmente dici raccontami la storia, che è una rottura di scatole raccontare storie degli spettacoli che uno fa. Invece noi al contrario, la storia è molto divertente, lo spettacolo è una rottura di scatole che non ne vuoi più. E lo facciamo raccontare a Formicola. Ecco, che culo che ho. Tocca sempre a me fare la... Sì. Vabbè, no, ma è semplice. No, beh, bella. Poi la regia di Alessandro Benvenuti, sì, un altro monumento storia, della un altro monumento, no, abbiamo incominciato assieme nel 78 con Non Stop. Non Stop. Noi, 1878. Sì, Verdone, i Gatti, tutti assieme. Troisi era l'anno prima. La Smorfia era l'anno prima. E niente, questa è una roba buffa, è un cartone animato dal vivo praticamente. È la storia di due comici che ormai si odiano. Perché quali sono fra voi tre? Io e Ciufoli. E io e Ciufoli che ormai non vanno più d'accordo dopo 15 anni di lavoro assieme, ed è una cosa tipica nel mondo dello spettacolo. Sì, riuscire ad andare nostra, d'accordo. Sì, allora questi due stanno tornando da una serata e sono in aereo e a un certo punto incrociano una perturbazione, una roba, un vortice, una roba, si sente un botto e si trova in un deserto. Ma questo è un film, non ti preoccupare, siamo bravi. E comunque, su un aereo. Ci troviamo, c'è l'aereo in scena, sì, quindi. Sì, no, perché... e quindi ci troviamo nel deserto e non capiamo dove siamo finiti, però a spiegarcelo dal cactus che c'è nel deserto si apre una porta ed esce Max Bison. Non state bene, si è scritta sta cosa. Noi... è uscito dal coma. Da... sì, sì, aspetta, sì, non è mica finito. Ah, esce dal cactus questo personaggio che abita lì nel cactus, certo. Abita lì nel deserto. Certo. E non si capisce che cosa faccia, che cosa vuole. Cerca di far andare d'accordo questi due per tutto il tempo, in tutti i modi, certo. Facendo delle cose stravaganti, costringendoli praticamente alla fine a tornare amici, e ci riesce. E alla fine si scopre che questo qua è l'angelo, l'angelo dei comici, è quel santo protettore che abbiamo tutti noi che facciamo, certo, ridere, che delle volte ci mette una mano sopra e ci salva in situazioni drammatiche. Sì, io credo che sia l'unica medicina che può salvare chiunque, quella dell'autoironia, che per molti, come disse una volta Ciuffoli, l'autoironia invece è solo una macchina, un modello di una macchina, sì. Invece no, è l'unica cosa che ti può salvare la vita in ogni occasione, anche le più dure, anche le più difficili. Abbiamo vissute tante nella nostra vita, nelle nostre famiglie che ci hanno salutato, eccetera. Fortunatamente l'amicizia e il divertimento, anche in quei casi, ci hanno salvato un po' la pelle. E tu, questo... Piso, sei il testa di cactus. Esatto, il testa di cactus. Sei quello che esce. Ma chi l'ha scritta? Sì, questo? Scritto tu, l'abbiamo Mina? Scritta io, Andrea, Benvenuti e Pistarino. Ah, è una commedia, sì, è una commedia che ha 27 anni, l'abbiamo scritta 27 anni fa. L'avete già fatta questa? L'avevamo già fatta 27 anni fa e io ho pensato di riproporla con loro due perché secondo me erano perfetti, e infatti la commedia funziona esattamente come funzionava 27 anni fa. Perché poi, sai, è una cosa, è un cartone animato e ci sono i rumori, gli sniafurzoli. Gli sniafurzoli. E sono gli animali del deserto che si inventa, certo, lui. Miei. Sì, lui si inventa. No. Ci sono degli animali pericolosissimi in questo deserto. Quali adesso sono, Pisu te li fa sentire. I cerpiti. Questi sono i cerpiti. I cerpiti. Certo. Sì. Poi ci sono i fuquiu. I fuquiu. Che qua non l'avete ancora visti, no? No. Vabbè, certo. Fuquiu... Anche perché se avessi visto soltanto uno, a quest'ora non saresti qua a raccontare. Sono mai estinti, certo, da un po' di anni. No, ma no, no. Proliferano come non si vedeva da a tredicine. Certo, era bello perché questa è una trasmissione che ha vinto vari premi, il premio Annio Flaiano per due anni. Penso tutti oggi. Una ospiti che vanno da Andrea Bocelli ai ministri, eccetera. Farla finire sei mesi prima della con sua funzione dei cerpiti. Ma non lo sapevo. Anche fuquiu sono. Volete sapere che c'è un altro animale invece che mi è venuto alla mente quando andavamo in tournée con Roberto, la prima della ditta. Lui aveva i suoi fan per la strada e di notte quando si guidava, che cosa facevano questi fan? Veramente una cazzata. Oddio, che mi fa ricordare. Questi erano i bravi ciufoli, si chiamavano. I bravi ciufoli sono proprio lì. Erano degli animaletti che ci facevano il tifo per strada. Bravi ciufoli! Mentre guidavamo andavano così. Vabbè, sono i bravi ciufoli. Noi ma tu devi considerare che il consumo di alcol è partito da molto presto, non è che è arrivato soltanto adesso. Roberto, sempre un goccetto di whisky e cioccolata fondente. Sì. Poca cioccolata fondente, tanto whisky prima di andare in scena. Insomma, cioccolato affondante nel whisky. Affondante. Certo. Ma come fate a respirare fra di voi? È difficile. Beh, c'è Benvenuti che ci salva. Sì, perché Alessandro poi comunque, è rigorosissimo. Ha avuto grande esperienza, grande divertimento, ma rigoroso. Molto. È alto 2,02 metri. Sì, cosa... Cioè, io Alessandro... gli arrivo all'ombelico, sì. Sì, non riesce a guardarlo negli occhi. Abbiamo fatto le foto per il manifesto, sai che c'era anche Alessandro, e quello doveva scegliere se inquadrare lui o noi. Certo. Perché se faceva primo piano a lui venivano le teste. Beh, a due riconoscibili. A me si vede appena, sembrava Alessandro col pallone. E non si vedevano gli occhi. Questa storia qui va avanti al Parioli. È debuttato qui a Roma? No, abbiamo debuttato già... quest'estate a Borgo Venezia al festival. È andato molto bene. Adesso siamo in tournée, siamo adesso a Roma. Poi andiamo, finito Roma, abbiamo 3 giorni a Modena, poi Trieste. Modena dove? Dal Michelangelo? Michelangelo. Alberto Gaglioli, il nostro amico grande. Pensate che questo direttore, si chiama Alberto Gaglioli, il padre l'ha chiamato perché, così, perché amava il calcio e voleva che suo figlio diventasse un grande campione, per cui il nome è realmente Berto perché ha immaginato la curva che faceva Berto. E cioè, poi quelli strani siamo noi. No, va bene, questo no, è vero, ce l'ha raccontato lui. Non abbiamo mai conosciuto gente normale. No. Infatti, no, devo dire. Questo di è, no. Come, è come quando, tanto per raccontare cosa di storia di nomi e cognomi divertenti, quando, se ti ricordi, Pino, eravamo proprio ragazzi, ma ragazzini proprio, e dovevamo andare ad informarci per un'agibilità per la compagnia che avevamo messo su, Allegra Brigata, c'era il Ministero del Turismo e Spettacolo, e noi andammo là a chiedere con chi dovevamo parlare questa agibilità, e l'usciere ci disse: sì, andate su al secondo piano e parlate con Pulcinella. E lì avete capito che era il vostro destino. Abbiamo parlato con il signor Pulcinella, funzionario del ministero. Quindi la prima persona che noi abbiamo conosciuto nel mondo dello spettacolo era Pulcinella. Da là in poi mi hai fatto venire in mente una roba che è successa a me con l'Empals. Invece all'inizio della nostra carriera facciamo la Rai e firmiamo il primo contratto, ufficiale, 125.000 lire a puntata prendevamo, e me lo ricordo benissimo. Il problema è che la Rai allora non è come adesso ed era molto molto molto precisa, quindi arriviamo all'ufficio scritture e questo dice: voi che cosa siete? Noi siamo due cabarettisti, no, non c'è. E dico: siamo due comici? No, comici, siete attori di teatro? No, facciamo... allora che cosa? Morale, fantasisti, illusionisti, clown. Questa, la categoria era quella, perché non esisteva, neanche all'Empals c'era la categoria dei cabarettisti, perché all'Empals si pagava in anticipo. Come facevi a pagare in anticipo facendo quel lavoro lì? E allora hanno fatto la 51C, che era l'agibilità per i comici, perché prima non c'era. Fantasista, illusionista, fantasista, clown. Che poi è vero, sì, poi l'ultimo il lavoro nostro è quello. Sul trapezzo, bravissimo, lui sul trapezzo fa di quei numeri. Ma guarda, cioè, signori, Zuzurro e Gaspare. No, invece no, io sul trapezio no, però pensate che il mio sogno era fare un musical e mi sono messo con un socio che era stonato e non cantava e odiava la musica, quindi figurati. Come vi siete conosciuti con grande Andrea Brambilla? Andrea l'ho conosciuto, cioè io l'ho visto da spettatore, perché... Al derby, dove al derby, al derby di Milano. Con Fosco, si chiamavano Fosco e Andrea, erano un duo, e Fosco e Andrea li avevano costruiti questo spettacolo Funari. Gianfranco gli aveva costruito questo spettacolo ed erano molto bravi, avevano dei tempi comici micidiali e poi facevano delle robe strane, nonsense, mi piacevano un sacco e io l'avevo conosciuto così. Io nel frattempo non facevo questo lavoro, studiavo medicina e avevo con un gruppo di miei amici, invece di suonare la chitarra avevo messo su un gruppo di cabaret prendendo i pezzi degli altri e rifacendoli. Poi ho scritto il mio primo spettacolo che si chiamava Garabadenzidek. Beh, certo, come vuoi titolarlo diversamente? Sì, ti dico anche il secondo, Schlafenziduba. Quindi figurati, era proprio per far capire. Certo. E poi di animaletti tuoi. Vidi questo spettacolo in cui raccontavo una presa di potere dei pelati, Cirio, che si ribellavano nei supermercati. Ai pelati pomodori. I pomodori pelati, certo, che facevano un colpo di stato al supermercato. Un colpo di stato. Una cosa del genere. Andrea, visto questo spettacolo, era al refettorio di Milano, vide questo spettacolo e disse: ma chi è l'autore? Sono io. E io ho cominciato a collaborare con i testi loro. Poi dopo loro due hanno litigato, ci siamo messi insieme, abbiamo incominciato a scrivere i testi per gli altri e dopo abbiamo fatto gruppo. L'esperienza è nata... ma è sulla carta. Però io e Andrea siamo nati come autori, tant'è vero che il primo contratto con Canale 5, noi siamo entrati a Canale 5 come autori di Boldi e Teocoli. E fu Teocoli a volerci a tutti i costi sul suo contratto. Ma devo dire la cosa, perché anche Pino veniva a vedere me e... No, col cavolo, ma proprio no, ma proprio non è vero, proprio assolutamente. Guarda, tu pensa, io non lo facevo neanche entrare in camerino, ma proprio non già ricco e spietato. Purtroppo stava in classe mia pure al liceo e pure all'ISEF, hai capito? Però devo dire che all'ISEF lui e il fisico gli hanno lasciato, a me non mi hanno consegnato la tesi. Questo c'è una fortuna, c'è un fisico, si è rotto tutto. Ciuffoli si è rotto no, tutto. No, me l'ha raccontato. Perché non ci vuole sentire. Ogni volta dico: Roberto, guarda, vado a fare parapendio e poi ma abbiamo lo spettacolo. No, non succede, ti preoccupa. Torna lui e la Draghetti, Luca, la testa rotta e legormento rotto, perché hanno fatto insieme l'elastico, tutte e due. Poi ricorda, oggi vado a fasci nautico, dico: Roberto, lascia sta, ma non gliela sto tirare, perché può succedere se tu ti butti a capofitto da 1000 metri senza paracadute, te poi fa male. Il rischio c'è. Per cui si fa, torna distrutta la testa, perché cadendo da usci nautico si è rotto la testa. Questo mi sembra come Pino, quel giorno qui. facevo paracadutismo, mi sono fatto male e tu eri vicino a me. Poi ho fatto e tu eri vicino a me. Pino, ma non è che niente. No, perché queste su 1000 volte succede, come mamma, le gare. Una volta le casca, però un'altra volta ci abbiamo aspettato con la premiata ditta, ma proprio poco tempo fa che abbiamo festeggiato il trentennale. Roberto pensa bene di suicidarsi quasi su Corso Francia, per cui si rompe il grande gluteo, un muscolo addominale, una costola gli ha bucato il polmone. Sì. Cominciavamo le prove 3 giorni dopo, per cui era impossibile immaginare che Ciuffoli fosse ancora fra noi, e invece è venuta le prove. approvato col bastone, con tutto. Io che c'avevo un'unghia incarnita non me potevo lamentare e mi stava a far male tanto, ma vedere lui senza più un muscolo, no, suo, la stessa cosa, fai il Rai un programma, casca dalla ruota e si distrugge la clavicola. L'unica volta che ho goduto molto è stato, siccome lui è uno che gli dà un appuntamento alle 6, si presenta il giorno dopo, so, alle 8, so anche questo, c'è ritardo di 26 ore. Finalmente, giocando a pallone con la nazionale attori, lui si rompe tutto il ginocchio, ma tutto, tutti i collaterali, 12 collaterali, 14 menischi, tutto se lo rompe. Partiva la tournée dopo un mese di soap insieme alla prima ditta, però ho goduto per un motivo, che finalmente potevo trasportarlo dalla stanza d'albergo alla macchina, dalla macchina a teatro, da teatro alla macchina, dalla macchina in albergo. Sapevo dov'era, sapevo dov'era sempre. Vedi, vedi, è il contrario di quando dice si rompe un'amicizia, no, uno si rompe e si mantiene l'amicizia. Esatto, per no, però ti dirò una cosa, io sto facendo un'opera di convincimento nei suoi confronti, sì, dicendo guarda, c'hai più di 50 anni, no, sì, esatto, adesso hai dato, basta, basta, basta. Sto facendo, siccome io ci sono passato, esatto, e però sono il più anziano, di conseguenza, e siccome avendo un passato piuttosto movimentato anch'io, adesso sono un bravo ragazzo anch'io. Però siamo tutti bravi ragazzi. La storia del ginocchio però è interessante, com'è che si fa a romperglielo? Sì, esatto, a romperglielo. Ma no, ma lui si rompe da solo, tranquillo, perché fa gli sport e più si butta col paracadute. Facciamo sui due ghiacciai, vabbè, quella schiena. Ma anche l'altro giorno doveva mandare in un posto, ma dove sei? Ho finito di nuotare adesso. Ma come cazzo, non ho finito perché di nuotare? Ma già quello è normale, poi ho giocato per un periodo a Polo. A Polo, no, ma gioco ancora. A Polo? Gioco ancora. Ma non ti assomiglia mai, tu sei un cafone. Perché ma che giochi scherzi, a Polo? È una tradizione di famiglia. Dici? me l'ha imposto quasi papà. Mi ha detto, Cao, senti, allora scusa, prendi la scuderia di famiglia. Papà. Tu pensa che se tanto c'è da tanto suo papà ci ha salutati a 103 anni. Eh sì. Cioè, se tanto c'è da tanto. Dunque, tu ne hai 50? 57. Però non faceva parapendio, non faceva queste cose qua, tuo papà. No, l'unica volta che ho goduto tantissimo con Roberto, il resto della prima ditta, quando mi sono avvicinato a una persona molto famosa, non voglio dire il nome, e loro si sono avvicinate per la prima volta, le ragazze, e lui dicendo, oh, Pino, lo senti tesoro a questa signorina molto famosa, dice, lo convinci a non partire un'altra volta per il deserto, perché l'ultima volta è rimasto con i Tuareg un mese lì e non è tornato. Diciamo, lei dice, davvero ami il deserto? Io sì, moltissimo, sì, perché poi lui, lo sai, con gli sci, poi quando sei nei ghiacciai c'era bisogno che tu andavi al Polo Sud e sta... Cioè, mi hanno casato così tanto. Sai quando sogni le cose belle, sì, e poi te svegli e non è vero niente? Abbiamo presentato Pino come l'avventuriero. No, una cosa pazzesca, non me la diete, però ci andai molto vicino. Cioè, un bacio c'è stato. E grazie a tutta questa avventura, che normalmente invece ti avvicinavano e ti sputtanavano. Cioè, lo arrivavo e diceva, guarda che tu moglie ha chiamato che Ridge sta poco bene, ragazzino, perché lui ha chiamato Ridge perché facevamo Beautiful. Cioè, vabbè, tutte queste stupidaggini. Stendiamo un velo pietoso. Esatto. Però state insieme, lo ricordo ancora. Che poi pensa, io l'ho incontrata quella signora che dicevi, no, lei avrebbe voluto fidanzarsi con te, magari. Io avrei voluto, no, ma sta sempre in giro, una volta nel deserto, una volta no, no, no, no, no, no. Era sull'Everest, non pensa, io, cioè, invece mi avete detto voi che stava sempre Senti, invece com'era Tarciso, quello anche un personaggio startup della tua vita, era il personaggio che nelle scuole, tipo, nelle scuole cattoliche era, esatto, l'oratorio. Ma poi lui è Tarciso, sì, lui è, sì, sì, lui, certo, è. Ma ti assomiglia lo startup della tua vita, fai sempre quella persona che ti assomiglia, no? Esatto. Un po'. Ma anche il personaggio che interpreto in questo spettacolo ha l'animo. Sì, l'animo cellino. Candido Cellino di... sì, infatti, è quello che mette d'accordo sempre, è un democristiano. Cioè, esatto, è vero, è democristiano. Quello, solo che un democristiano, lui è divertente perché è carognetta, nel senso che inziga, fa delle robe. Inziga. Sì, inziga. Fa delle robe. Fuori 7-8 vocaboli che sono stati contenti tutti. Ecco la Treccani, sì, che serviva. Sì, sì, sì, sì, lui proprio inzighino perché fa finta di essere sonnambulo, fa finta di morire. No. Sì, per far aprire, perché questo cactus è un cactus che è il quarto personaggio, certo, perché in realtà non si sa cosa ci sia in quel cactus, però questo cactus, oltre ad avere le porte, c'ha degli sportelli, delle cose, escono dei fumi. Ma scenograficamente lui, è importante, oh, fondamentale, perché quando lui gli dice di prendere le pastiglie che sono dentro il cactus, sì, a lui che non crede che lui esista, e lui dice che è un miraggio, di conseguenza, per crederci, lui lo costringe ad aprire il cactus. Se lui prende una serie di cazzotti, schiaffi, molle nel sono culo, degli antifurti, cioè, che... sono tutti gli antifurti che ci sono nel cactus. Bello. Poi il Parioli ha ripreso bene, è stato il momento, beh, il dopo Costanzo, che c'è stato un momento, adesso hanno fatto c'è una programmazione bella, molto interessante. Vero, sì, hanno iniziato con uno spettacolo, guarda, il nostro è il terzo spettacolo che in scena là, il primo è stato uno spettacolo di drammaturgia contemporanea, quindi testo attuale, Sociale. Poi è stato Alessandro, benvenuto, vero? Sì, con Francesco Montanari era il primo, sì, poi Alessandro Poker. Sì. Alessandro, benvenuti con Lavaro in una trasposizione un po' particolare. Certo. Poi noi e poi probabilmente chiuderanno perché dopo tipo il deserto davvero. Esatto. No, quello assolutamente no, poi va avanti, c'è cioè, veramente una programmazione interessante. Sì, sì. Il Paglioli funziona bene, un bel teatro. No, cioè, è sempre De Filippo la sì, sempre... sì, sì, ma sempre con una lui leggerezza ora... vera, sì, bella, sì. Leggerezza quella calviniana, Sì. No, ma è veramente una lucidità, tra l'altro ecco lui altra persona proprio di cioè che fa piacere incontrare, ecco chi dovevo veramente... invitare. Guarda che miseria, no, Lino. Ecco, Lino ti dicevo, e De Filippo. Bravo, mi ha mandato a dirti che proprio neanche per idea viene a perdere come tempo. No, qua. No, come ho detto proprio andate voi piuttosto. Io sono arrivato all'età mia per andare da Pino. Ha detto no. Se ha fatto mi abbia chiamato Pino, mi fa piacere. Già, un De Filippo che no, mi lui diceva Gino, io ho detto Pino. Ma sapete che siete proprio due scimmi fatti e finiti. Cioè, non ho parole. Eppure, quando io sento il tuo programma, perché io ascolto il tuo programma, veramente non come lo dicono gli altri, cioè quando ascolti il tuo programma ci sono dei momenti che è serissimo questo programma, sì, fanno degli discorsi di un tecnicismo terrificante, poi con tutta sta gente che ha questa voce veramente ce ne fosse uno che ha una voce sono tutti di una voce sono doppiati, che dici sono malati, perché c'è l'attore doppiatore che apre il programma, però c'è Franco Fussi, vocologo, avete tutti la voce, avete tutti questa voce in buona. Ma che cosa stai dicendo? C'è anche le donne no. Parlano come un libro stampato. No. Ma per favore, quella che fa le lezioni. Adesso c'è Donatella Pandimiglio che fa il canto, lei è antica. Ma lei perché è così albirinia? È bellissimo. Una signora di una certa età che racconta come si può cantare. No, poi io... sono dei tutorial radiofonici, come fa lezioni di mimo, sembra, no? Ti insegna a cantare come Franco Fussi ha fatto delle pillole vocali, di salute vocale. Sì, salute, si spiega come... Come mantenere la voce. Ma la salute vocale... La salute vocale. Ma sono tutti... Ma ti dico una roba, io le prime volte sono rimasto... Ascolto sempre Radio 24 perché è la radio in cui parlano di più, quindi esatto. Le balle piene della musica che mettono le altre radio. Sì, ascoltiamo quindi... adesso un brano. No, così. Vai a farmi benedire. Quindi io dal mattino sento Cuori e Denari, poi dopo Nicoletti, tutti quanti, no? Esatto. Finisco con la Zanzara, sì. In replica perché lo sento a mezzanotte. Vabbè, quindi... Però quando, poi un giorno capito su sta roba qua. Dico, ma cazzo, questo è Pino, perché c'ha questa voce, riconosci benissimo. Ma non bello così, ma chi? Sono presente, sono vivente. No, senti, è benissimo. Ma tu pensi, è talmente strano il pubblico di Radio 24. Io ho sentito un signore l'altro giorno e mi diceva: ah, sì, perché sento molto spesso il programma che fa il tuo amico Pino. Molto garbato. Dico, no, vabbè, non è lui. No, è garbatissimo. Poi voi doppiatori un po' vi ho. Perché siete bravissimi, perché io ho fatto un doppiaggio nella mia vita e me lo ricorderò per tutta la vita, perché... Ma se lo ricorderanno anche gli altri, questo. No, anche il direttore del doppiaggio, esatto. Quattro ore per dire una frase ci ho impiegato, io penso che ho battuto Ciuffolo il primo turno 37 anni fa, abbiamo fatto una gara fra me e lui, ci hanno fatto fare una gara per sapere chi doppia quel personaggio con tre anelli, ho vinto io, lui uscì fuori, fa io non doppierò più, ma tu doppierai i miei film, e se n'è andato offeso. Restate con noi, ancora un blocco potete rimanere perché sì, 10 sì, minuti, sì. Ok. Eccoli qui, Ciuffoli, Pisu e Formiga. Voice Anatomy. Anche questo è Voice Anatomy. Ma lui è Christian Jansante, la voce ufficiale di Radio 24, che è un doppiatore di... Sì, sì. Ma come lo dici? Voice Anatomy. Ecco voi, Pino Insegno, diavolino. Questo è il tuo personaggio che hai doppiato. Parliamo tutti così. Ma no, ma ti prego. Quello... Sì, Pino. No, dai. Senti. No, ciao Nino, no, facciamo media con quelli che arrivano dopo. Allora, no, dopo. Allora sì, sono qui, non c'è Nino Formicola, Max Pisu, Roberto Ciuffoli, ciao. No, vabbè, io vorrei chiedere l'aiuto al fantasma di Cruciani in questo momento per dire delle cose che penso, non le posso dire però. Ma no, ma questa è una voce che facciamo nello spettacolo, perché a un certo punto, siccome per non farci mancare niente, ci droghiamo col cactus essiccato. Ma che spettacolo è? Una follia sto spettacolo. Cioè, no, parliamo tutti così, sai? Ciao, viaggetto, c'hai mica della sabbia a casa, che io mi serve della semenza per piantare. Se cactus. Vuoi ce l'ho io, ma è vecchia semenza senile. Benissimo. No, va bene. No, noi faremo una piantagione per fare canne extra light a basso contenuto di nicotina. Con il motto fumare anche a te, passamela. Questo è un pezzetto di Sabbia Mobili. Sabbia Mobili, no, yes. Sabbia Mobili, sì, al Parioli. Ma è serio, no, aspetta, senti la presentazione, senti l'annuncio, sì, fatto da quello serio. Vai, metti una musica sottofondo, vai. Vediamo un attimo, Alessandro, ti ringrazio. Intanto saluto di là Alessia Navarro. Sabbia Mobili, il un teatro thriller. Parioli a Roma. E dai! Scusami, mi mette sotto Twin Peaks, momenti, ma metti Twin Peaks e Blade Runner, Blade Runner. Sì, ho capito che lo so che è Blade Runner, però sembra Twin Peaks. Metti una cosa dolce, metti il tè nel deserto. Il teatro Parioli a Roma presenta da martedì 21 novembre. Martedì con la T, non con la T. Questo pure sembrava. Il teatro Parioli a Roma presenta da martedì 21 novembre massaggi anche a coppie. Sì. Perché sembra un centro estetico. Ma cos'è? Non è possibile. Faglielo fare bene su, dai, Madonna. Il teatro Parioli a Roma presenta da martedì 21 novembre a domenica 3 dicembre la commedia brillante. Brillante. Questa musica. Esatto, secondo me è brillante. Sabbie mobili, fermatele, venite a fermarle. Accorrete. Con Roberto Ciuffoli, Max Pisu e Nino Formicola. Sì. Anche oggi alle 5, sì, 17 al Teatro Parioli. Una stupenda cosa comica sull'amicizia. Anche in quei giorni. Anche in quei ma giorni. No, con le fai anche la ruota. Io fortunatamente tra poco ci sarà un attore che già ci ha raggiunto, che sta facendo finta di niente nelle nostre livello spalle. No, continua a far così. Il livello è basso questo, però tu insomma che hai fatto l'attore... ti ho presentato, cioè Enrico Loverso, dove? Sì. Verso qui. Posso interloquire? Sì, però vicino al microfono. Posso interloquire? Mamma, io scappo. No, ma il livello della trasmissione è alto. No, cioè, ma no, noi stiamo facendo media per far bella figura a te dopo, capisci? Esatto, no, non di cose. Perché così dopo tornate nella vostra bolla di... Buonasera. Ma non è così! Ma nessuno si prende così sul serio. Ma guarda, questo blocco, quando finisce che vanno via questi fra tredi? Fra poco. Non mi avete dato il minutaggio. Non c'è a 45, ancora 9 minuti. No, 8 minuti. 8 minuti. Devi sopportarci per 8 minuti. No, io sopporto volentieri. 8 minuti sono tanti. No, 8 minuti si fa tutto. Come poi, fai 8 minuti. Io so fare la voce della bestia, vedi? Come fai ad amarmi? Ecco, tu stai usando una voce gutturale, non lo sai neanche come la stai facendo. Mi chiamano Mimo Acustico, ci sarà un cazzo di motivo, no? Qualche Mimo Acustico. Sì, sull'enciclopedia ha scritto Mimo Acustico. Ma tu hai fatto l'equilibrista, illusionista, giocoliere e Mimo Acustico. Ah, sì. E chi è che ha inventato? Rapota, chiudete, cioè scusami. È vero. Le aperture, le chiusure. Sì. Mimo Acustico però è bello sì, Mimo, sì. Mimo con due M, Mimo Acustico. No, quello è... Non capisco Mimo perché arrivano i complimenti. E l'esempio che fecero all'epoca fu quando io c'era un indiano addormentato e dicevo, è ubriaco. Come mai? Spostalo. E io dicevo, Glenn Grant. No. Sì. Però prima di tutto, in effetti adesso certe cose suonano. Sono normali. No, sì. Esatto, però quando all'epoca tu dicevi 30 anni fa, 40 anni fa, facevi il nonsense, noi ci hanno detto voi rompete la quarta parete, non è giusto a teatro. Certo. State attenti, non sappiamo manco qual era sta quarta parete, ma è stata la fortuna. Ma ve lo spiegherà dopo Loverso. Loverso che sta impegnato per SMS, non si manda SMS, qui c'è il telefono, interviene nel microfono. E fa quelle cose no, quello era lui che stava scrivendo il messaggio tutto contento. Ci sono riuscito. Tu ti rendi conto che non si può dire una parola normale? No, è ma perché qualunque parola, come tu dici, la parola è importante. Esatto. Quindi... Però è bello, è un allenamento. Noi facciamo pure, diciamo una parola e poi giochi di parole su quella parola. Perché quello te ne è in vita. Pino, puoi chiedere a Max Piso se quando scalda i panini li spiattella sui finestrini? Ah, sì, è nel film di Gian e Giacomo che io sono felice che spiattellavo. Sì, aspetti una mezz'oretta, è caldo. C'è il sole. È vero. No, questi sono più attenti. Ne sanno più loro di chi l'ha fatta certe volte le cose. Perché, no, una domanda del genere, Pino, vuoi vedere se spiattella i panini sui finestrini? No, ma te lo dico pure a noi quando ti chiamano in un certo modo per la strada e tu non ti rendi conto perché ti ha chiamato in quel modo. A me perché hai ormai... fatto. A me mi chiama l'ultima volta, ma mi hanno chiamato oddio, buco di memoria. Buco di memoria. Guarda, meglio buco di memoria. Vecchioni, mi fai l'autografo? Vecchioni a te. Sì, e io ho detto volevi non farti beccare? Dico, no, veramente io e io ho firmato Vecchioni. Certo. Con quello di fianco che mi guardava e diceva "Ma lei non è Vecchioni". E quell'altro lui è Vecchioni, ma è in incognito. C'è stata cosa anche a noi quando ci ha raccontato Fabio Concato, che è venuto pure ospite anche lui, pensa, che qualcuno ha fatto, stava nel centro d'Italia, ha detto che niente sei Concato del cantante, sì. Detto, sì, che magandi Roma capoccia. Veramente, ma ti ricordi, io ho detto a me è successo, a noi a parte delle cose di incontri con persone che dovevamo salutare, quella, la mamma che ci presentava il bambino a Pino, a me, dice, ah dai salute che li riconosci, dai, vai, lui vede sempre, va riconosciuto, salutali, il bambino ci guardava e non batteva, e saluti porci e cani, salutali, no? Però a me è successo con il trio, i Marchesini, tanto che fanno complimenti per quello che vedevano con la premiata ditta, e poi dice, però guarda, la cosa che mi ha fatto ridere di più, i Promessi Sposi, che bravi, era il trio. Però va bene, a me l'ha raccontata Virgilio Savona una cosa, tanti anni fa, del Quartetto Cetra. Quartetto Cetra mi diceva che la cosa, e io non facevo ancora questo lavoro, e mi ha detto guarda, il nostro lavoro capita che io passo per la strada e la gente dice guarda il Quartetto Cetra e sono da solo. E ho capito, ma era vero, sapessi quanta, tuttora mi dicono Zuzzu e Gaspare, veramente purtroppo sono rimasto solo io, quindi non è che è vero. Comunque Fabio Concato, come dire, è venuto Fabio Concato, no, non parla così Fabio, no, ma infatti, ma vorrei dirti che Fabio Concato, come è incominciato, tu lo sai, col cabaret, è vero, ne abbiamo parlato, i mormoranti, gli sconosciuti che si fanno avanti, anche lì c'era Zampino di Funari, Funari ha costruito anche me, Andrea e Gianfranco, che quando ci dicevano i tempi comici, io ho perso 400 cene con Funari a Formì, non si dice così. Scommettiamo. Un romano a Milano al derby che è riuscito a imporsi in questo modo, incredibile. Era un mostro, era di una furbizia, di un'acutezza, di una velocità mentale rara a trovarsi. Ma è veramente forte pure lui, al trucco che sta in faccia alla truccatrice, scusa. Okay, mica posso, se me lo tengo mi scoppia il cuore, ma il dottore non mi devo tenere. Funari è veramente un altro bel pezzo di storia. Signori, stavamo per salutarci, lo sapete, mancano solo 2 minuti. Meno male, va. È stato bello, mancano 3 minuti. No, il tempo di andare a teatro, vi aspettiamo. Si può riparlare, io volevo leggere un pezzo di ma per favore non riprende ogni volta che sbaglio una cosa. No, perché di solito adesso 3 minuti, tanto di che cosa possiamo parlare? Il derby nemmeno si può parlare, perché derby di Milano, l'unico derby che voglio sentir nominare oggi è quello di Milano, per favore, non il derby calcistico, ma il derby come l'uomo. Vorrei dirti che a questo tavolo c'è un laziale, un romanista, un juventino e un milanista. Penso delle cose, siamo tutti qua. Sembra una barzelletta, c'è un tedesco, un italiano e cinese. Pensa che la barzelletta è quella perché c'è un laziale. Ma si vive in una società multilaziale, smettila, basta. Guarda che oggi tre errori sono stati, le barzellette devi stare attento a raccontarle. Io perché? Ne racconto sempre una che non mi fanno mai finire. Quando c'è una tavolata di gente un po' troppo politically correct, io incomincio, c'è una barzelletta? Sì, allora c'è un negro vegano musulmano e gay. Grazie. Va bene, si alzano e vanno via. Sono girato dall'altra parte, se ne vanno tutti. Dalla già ho dovuto fare un panegirico fortissimo, è stato un momento con Aldo Grasso che è successo il panico. Ma basta, so che piace il tuo programma, vanno a vedere il nostro spettacolo. No, non ne ha parlato, molto bello. Purtroppo ho sbagliato il momento di parlarne perché non ne aveva parlato. L'unica volta che non aveva parlato male, io ho parlato. Ma succede pure questo, un tempo comico sbagliato, però abbiamo risolto pure questo. Però lo voglio ricordare seriamente, Sabbia Mobi, che l'unica cosa seria è ricordare dove siete e cosa state facendo, perché è giusto pure, a parte il piacere di aver corrisposto con voi in questo linguaggio osmotico che ci ha legato questo pomeriggio insieme, dove ci ha regalato dei momenti. Sono la pelle d'oca. Ammazza. Ma dove in quale parte del corpo è venuta la pelle d'oca? No, per favore, lo spettacolo è Sabbie Mobili. Sabbie Mobili al Teatro Parioli alle 17 oggi. Sì, sono le 2:43, 43 secondi, 44, 45. Manca ancora 1 minuto e 10 secondi. Robby, vuoi salutare qualcuno? Se qualcuno non c'ha più domande da fare. Che mi piace, domande da fare sempre, qual è stato il tuo sliding doors della tua carriera, Nino? Ma tu riesci di quello di ieri l'ho visto, la mia carriera, non l'ho visto, il Sliding Doors è stato Antenna 3 Lombardia. Lì è successo. E la cosa, perché noi avevamo rinunciato a fare i comici, volevamo fare soltanto, perché dopo Non Stop e La Sberla avevamo capito che non avevamo le spalle abbastanza larghe, facevamo solo gli autori, e lì facendo gli autori invece abbiamo capito che era diverso, e c'erano talmente tanti pirla che c'era spazio per altri due, quindi ci abbiamo provato. Bellissimi momenti, va bene. Signori, in bocca al lupo, davvero tanta merda, come si dice, grazie di aver sottolineato l'importanza di questa trasmissione. A Milano, poi quando siamo a Milano veniamo a romperti le balle anche lì. Sì, perché a gennaio fare siamo a Milano. Possiamo fare diretta da là, ci stanno gli studi, ma non so se... Ci troviamo Cruciani. Sì, è meglio, almeno c'hai le parole giuste. Ma io ci porto un prosciutto e una troia, siamo a posto. Come dice Giuffri, sono rimaste poche parole, insomma, manco tanto carino. Per cui va bene così. Ciao, è sempre un piacere stare con te, Gino. Detto segretino, Roberto Giuffri, Max Fiso, Nino Formicola, Sabio Mobili, Dato Parioli, fra pochissimo col mio amico e attore vero internazionale Enrico Loverso, e il contest sul doppiaggio. A tra poco, Voice Anatomy, ciao. Voice Anatomy. Di qua, Enrico Loverso, da quest'altra parte, lì ci vanno i ragazzi. No, ci vanno i ragazzi del contest lì. Eccolo, Enrico Loverso al mio fianco, prendo gli occhiali, stavamo salutandoci con i tre pazzi, scusate. Ma questa anche è la bellezza di incontrare degli amici, che uno può condividere anche questi momenti. Caro Enrico Loverso, sono molto contento di essere riuscito a incastrarti, anche se tu mi hai detto: ma posso venire la prossima domenica? Io te l'ho proibito, non si può saltare un appuntamento del genere. Tu sei un attore italiano e su qui non ci piove. Sei nato il 18 gennaio, fra tu un po'. Che fai? Io non ho la vita, non l'ho ancora io sto capito. Attore Maura, attore Spaccata, attore Bella Monaca, non faccio l'attore. Senti un po', sei del 64. Sei più giovane, hai capito? Perché lo dici così? Io vado a dire sempre in giro che ho 36 anni. Senti, tu sei figlio di un ingegnere e di un insegnante, che ha nulla a che vedere col mondo della recitazione. Senti, quando gliel'hai detto? Poi sei di Palermo, nasci a Palermo, quindi anche una regione bellissima, importante, che ha creato veramente dei personaggi, però difficili in un periodo signore, storico. Signore e signore, a voi Pino Insegno, l'aggiornatore di Wikipedia. Vai. No, che c'entra? No, ma il fatto di... No, ma mi fa piacere perché certe cose di te io ti conosco benissimo, c'è anche delle storie che ci legano divertenti, dopo magari le racconterò, però tu, ecco, nasci lì e dici: voglio fare l'attore, papà, mamma? No, io vado a giocare tutte le domeniche mattina al Teatro Greco di Siracusa. Quando eri piccolo? Al Teatro Greco? Al Teatro Greco. E non ti strillavano là dentro? No, allora si poteva fare. E poi a 8 anni mia madre mi ci ha portato una volta di pomeriggio. Ho visto il mio parco giochi pieno di gente, ho visto una scenografia costruita dentro una città, ho visto persone che entravano e uscivano dalle case declamando in vario modo, ho visto uno che usciva con un vestito bianco tutto macchiato di rosso, di sangue. Ui. E ho detto: ma lo voglio fare pure io questo gioco. Che gioco è? È il complesso di Edipo, mi è venuto vedendo l'Edipo Re. Il complesso di Edipo non è male. Senti, è così, che ti volevo dire, è da lì, hai avuto il Sacro Fuoco, è piccolo però. È il mio Sliding Doors, è stato quello. Hai sentito la domanda che ho fatto? Io sono bravissimo, arrivo poi mi preparo le risposte. No, perché non te lo vedete che devo dire. No, mi piace percorrere la tua vita perché io la conosco poco, cioè ti conosco già quando avevi avuto il successo acclamato e conclamato, perché siamo diventati amici, e certo non ti ho mai chiesto come hai cominciato, ma visto che questa radio racconta anche questo, è giusto che magari tu l'avrai già detto da qualche altra parte, io cerco di tirartelo fuori in maniera diversa dal solito, in qualche modo. Certo, ho lasciato tre cazzari, ma tu no, da te pretendo che ci sei. Senti, so un'altra cosa, t'hanno cacciato via da parecchie scuole da ragazzino? Sì, praticamente da tutte. Non sei così casinaro. No, però forse non sono uno da scuola, forse non sono uno da regole, soprattutto le regole mi interessano quando sono un campo di gioco. Non quando sono una possibilità di limitarti per poi guardarti dall'alto. Quindi le regole per me sono fondamentali, sono importanti, vanno rispettate, conosciute e però non vanno subite. Esatto, puoi cambiare il gioco delle regole, può essere cambiato, però vanno rispettate, questa è la cosa più importante. Sì, bisogna sapersi muovere all'interno di un reticolato. Come hai fatto tutte le scuole? Fatte lì in Sicilia, a Palermo, hai fatto elementari, medie, liceo, poi sei venuto... Sì, poi dopo il liceo sono venuto a Roma, poi a Roma ho fatto scuole di cinema. Hai fatto il centro sperimentale? sì, poi ho fatto una scuola di teatro a Siracusa e poi basta, insomma sono stato buttato fuori dall'una e dall'altra. Però è successa una cosa, prima, io non lo sapevo, prima del Ladro di Bambini, del quale parleremo perché è stato quello il vero sliding doors della tua vita artistica, secondo me, almeno, anche secondo molti altri, ringraziandoci. Però nel 91 tu sei stato scelto per un film americano vicino a Bruce Willis. Sì, è vera questa cosa, sì. Io non lo sapevo. Quello è stato lo sliding door. Quello allora, vedi che cosa, quanti sliding door ci ha avuto questa vita? C'è una porta, a porta girevole. Quello è stato lo sliding door della mia vita, perché mentre io facevo quel film Arrabbiato Nero. E il film era Hudson Hawk. Sì, sì, sì. Ma tu, adesso scusa la pronuncia, ma tu il falco... politically correct diresti proprio Arrabbiato Nero. Esatto. Ma non è incazzato, si può dire, ormai è sdoganato. Sdoganato, in questa radio si può dire. Sì, no, si può dire dappertutto. Ormai si dice pure in prima serata, per cui anche se bisogna. Perché ero all'inizio, avevo fatto un provino, credo molto bello, perché il regista era zompato dal divano, era venuto, mi aveva abbracciato, mi ha detto bellissimo, bellissimo, bellissimo. E, l'hai fatto in inglese il provino, immagino? Il provino, sì, okay. Sì, in inglese, in inglese. Il regista era Michael Lehman. Sì. E poi arrivo sul set e un assistente alla regia, con l'English molto fluent, io allora ai tempi non ero fluent, come non lo sono ancora adesso in italiano, come tu ben sai. Io chiamo spesso Pino per consulenze in italiano. In italiano, quando dobbiamo i film insieme, dove tu sei protagonista di film internazionali. Insomma, questo qui aveva organizzato, siccome avrei avuto io 2 giorni in Italia e 2 giorni in Ungheria, lui aveva organizzato tutto un gioco di comparse che mancavano, di cose eccetera, per prendersi il mio ruolo, andare a girare in Ungheria al posto mio. Ma che so chi? Il regista? Un assistente alla regia. Ah, l'assistente? Un assistente alla regia. Ha fatto, e si è preso lui il mio ruolo, così poi lui ha continuato a lavorare nel film per altri 2 o 3 mesi. E a me mi ha fatto fare la comparsa in quel film. Quindi ero arrabbiato nero. E come ha fatto? Cioè è andato dal regista dicendo che tu non potevi. Ha detto che è mancata una comparsa, quindi aspetta, mettiamo lui adesso, e però lui poi dopo. E non ti preoccupare, poi lo faccio io il ruolo quello, però adesso è perché io oggi non posso. Cioè, non so che cosa gli io abbia. Credo che questo non faccia più l'attore, spero, per lui, spero no, per questo noi. Non fa più, non è fa più cinema. In questo hai avuto modo poi di parlare con il regista e dire guardate che non è stata colpa mia sta storia, sei no, riuscito a risolverla? No, io poi comunque nel momento in cui faccio, non... Questo è bello, il qui ed ora. Esatto. È una cosa che a me manca. E mentre facevo quel film, tra l'altro è stato bellissimo perché ero con Remo Remotti, è un grandissimo, purtroppo molto poco conosciuto, e sono stato 10-12 giorni con lui in una situazione a Rimini bellissima, in cui con la diaria prendevo più di quello che prendevo di come attore. Dove stavate a girarlo, mi hai detto? A Rimini, San Leo, al Castello di San Leo. E poi 28 anni fa, che era il 91, per cui sì, 9, sì. 17, sì, 20, no, 26, 26 anni fa. 26 anni fa, insomma. Mi hanno tenuto 12 giorni là senza farmi lavorare, io ero però con, io correvo la diaria. Bruce Willis l'hai incontrato? Bruce Willis l'ho incontrato e giocava in albergo con i bambini. Ho pensato, ma che mancanza di rispetto muoversi così in un albergo come questo. Eravamo al Grand Hotel di Rimini. Poi qualche anno dopo ho capito. Sì, poi qualche anno dopo. Insomma, che mi frega questo. Io parlavo della mancanza di rispetto in un albergo storico come quello del Grand Hotel di Rimini, osannato da Fellini, eccetera, eccetera. E poi qualche anno dopo mi sono ritrovato che anch'io. Quando poi capisci che in realtà tu vivi negli alberghi, poi l'albergo tutto è casa, l'albergo è casa, per cui gioca a pallone e ci sarà stato un attore che verrà ospite di qualcun altro e dirà vivi di Enrico Loverso che gioca con i bambini e pensai ma che mancanza di rispetto un albergo dove c'è stato Bruce Willis. E per tornare allo sliding door di quel film e doors, perché sono due porte, una si apre e una si chiude. Poi mentre ero così arrabbiato mi chiamano per fare il provino del ladro di bambini nel 92, sì. Allora ero nella cabina telefonica al telefono della mia gente, mi dà tutte le informazioni, sì e no, perché cercano carabinieri, cercano meridionali per tutti i ruoli di contorno, quindi può essere che vai, ti cercano, sai perché vogliono la presa diretta, perché ancora la presa diretta non era molto utilizzata nel cinema italiano, ma anche il neorealismo è doppiato, per cui e poi sto per chiudere, dico scusa un attimo chi lo fa il, e poi mi dice no, il regista è Gianni Amelio. Io dico ah bellissimo, Porta Aperta, un film straordinario, sì. Mi piace Gianmario molto Conti. L'idea di lavorare con lui e, scusa, chi è il protagonista? Banderas. Banderas. Come Banderas? Era Banderas il protagonista. Come Banderas? Non ho capito. Cercano la presa diretta e poi il protagonista lo prendono da doppiare. Per cui ero già carico di negatività proprio totale. Sono andato a fare il provino con una rabbia in corpo. Che hanno dovuto sostituire Banderas. Stavolta è successo il contrario. Hanno levato Banderas e hanno messo te. Sì. Rosecca ha parlato così il ruolo. Ma sì, in effetti sì, è una contraddizione in termini. Fa un film italiano sul sud, il carabiniere. No, che poi infatti... la storia l'abbiamo visto tutti quel film. Insomma, no. L'umanità che traspare da quel carabiniere in tutta la sua umanità, in tutto il suo linguaggio poi. Perché poi veramente parlavi... in una maniera molto sporca, bella, vera, ma fu veramente incredibile. La Banderas sarebbe stato un grande errore, sì, però ha rimediato come, su una come tantissimi errori se ne fanno tanti perché partono magari dalla produzione, mentre invece dobbiamo vendere il film, eccetera, essendo Amelio il regista che è, ha visto cioè, oltre. In realtà lo so, molto probabilmente lo sapeva prima ancora che io facessi il provino. Tu resta qui, dobbiamo salutarci un minuto per dare lo spazio alla pubblicità, tra pochissimo con Enrico Loverso e poi cominceremo già a sentire i primi ragazzi per l'ultima puntata di questo contest. A tra poco. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, sono le 15 in questo istante. Potete rimettere i vostri orologi al mio fianco, Enrico Loverso con le mani che se le sta passando fra i capelli. Mi ha dato un orario e può essere anche utile per chi sta in macchina, per chi sta in giro. Qualcuno ci dice le coperture, suggerisce la copertura per le radio in autostrada anche in galleria. Lo so, non è facile pure li mettere i ripetitori, pure per il telefono. Saluti e complimenti, non ho dato neanche il numero, ma ormai lo conoscete bene, 349-238-6666. E poi il nostro centralino 800-24-00-24. Caro Enrico, camminando piano piano nella tua carriera siamo arrivati al 92 con Il ladro di bambini. Ma che hai studiato? Sì, sì, io sono... Hai studiato? Sì, c'ho Alessia Navarro, capo progetto. Sei pazzo, io devo pedissequamente seguire le norme... No, ma anche perché poi io cammino e vado... dove penso di andare, dove mi porta il cuore l'intervista. Dove ti mandano. Esatto, dove ci mandano fra un po'. E però, insomma, certe notizie devo seguire. Siccome mi piace questo percorso che stiamo facendo dall'inizio, dalla tua primi calci del pallone al teatro, all'anfiteatro a Siracusa, dove poi hai scoperto invece col gioco, ti piaceva quelli che stavano sul palcoscenico macchiati di sangue, e da lì sei arrivato a Roma, scuole varie, eccetera, questo... passaggio nel film di Bruce Willis dove t'hanno fregato la parte, ma poi tu l'hai rubata, meno male, hai preso la parte di Banderas dove Gianni Amelio ti ha scelto come protagonista del lato dei bambini, e poi con Gianni Amelio però è un amore che ha continuato, altri due film bellissimi, L'America e Così ridevano, ultimo Leone d'Oro italiano a Venezia per un film, poi c'è stato il documentario di Francesco Rosi, Sacro Gra. Esatto, è vero. Però come film è stato l'ultimo. L'ultimo Leone d'Oro italiano. È vero, perché poi due film importantissimi, perché insomma l'America era il film su il primo in questo grande esodo. Tu puoi fare l'albanese, il napoletano, il siciliano. Oscar europeo l'America. Eh sì. Bella soddisfazione, ma devo dire che tu hai condiviso dei momenti importanti. La prima presa in giro è servita per poi rompere le corna a tutti quanti dopo. Com'è lavorare con un grande regista così? È tristissimo perché poi dopo ti mette quando lavori con gli altri avevo capito che funzionava come giocare con Messi è tristissimo perché dopo devo giocare con qualcun altro e la cosa è difficile. Sì, in effetti quelli sono i limiti, il pregio e il limite di cominciare in Serie A in certo modo a nazionale, e poi giustamente stanno altri ali, però tu ne hai fatti tanti, i film hai camminato tantissimo. Oh, dai, ci sta un film che tu non rifaresti fra quelli che hai fatto? Sì, ce ne stanno diversi. Quanti? almeno 3-4. Guarda, sì. Nella mia vita ce ne sta, non devo parlare di me, ma io non ne rifarei 8. E ne ho fatti 8. Guarda, tu almeno puoi scegliere. Quanti ne hai fatti? Quanti non lo so, li ho contati. Io tanti anni fa l'ho contato, erano una sessantina. Almeno una sessantina, perché non ne tieni? Io invece sono molto affezionato a tutto questo. Perché poi non sapevo più che parametro utilizzare per contare i film. No, se usare solo quelli... Non contarli, ma averli, saperli, tenere qui la critica, il manifesto. Non ce li ho neanche a casa. La locandina. Non ce li ho neanche a casa. Dai. Non ho neanche le copie dei film. C'è neanche dei figli. Quali è bello mostrare quello che papà ha fatto e quello che non doveva fare. Che no, poi non ognuno è... vada per la sua strada, quindi... Sì, ho capito. No, vabbè, non ti voglio convincere, vabbè. Scusate, io sono soltanto un intervistatore. No, io... Guarda, è una discussione anche che ho, ho avuto l'altro ieri. Un bacio ieri. A tua moglie, posso mandare un bacio alla signora? No, non lo so, forse... Sì. L'ho già fatto. L'hai già fatto. Vabbè, io non ho visto niente. Esatto. Non è come penso. Esatto. Vabbè. Il, pochi giorni fa stavo facendo uno spettacolo teatrale, tra l'altro lo spettacolo, perché devi fare la pubblicità allo spettacolo di Ciufoli? No, adesso no, voglio dire di Ciufoli, questo ci sarei arrivato dopo il cinema. No, dopo il cinema, dopo il cinema sarei arrivato. Sto facendo uno spettacolo in tutta Italia che va benissimo, lo so, avrei parlato quasi ovunque. Lo so, ma lo sa, so, ma che se non c'era scritto c'è qua, scritto, scommette. Dai, uno nessuno 100.000. Sì, è di un ragazzo giovane autore, di un giovane autore, no? È scritto in due, Alessandra Pizzi e Gino, no, no, Gigi, stavo... Luigi Pirandello. Ah, Luigi, detto Gigi. Un ragazzetto in gamba, ha scritto bene, sono trovati bene. Siciliano anche lui, se non sbaglio, no, Pirandello. Siciliano. Insieme a quell'altro, Virga. Non l'ho visto, non è mai venuto alle prove, però pare che sia soddisfatto. Sì, pare che sia soddisfatto. Non è male. E comunque, eravamo a Catanzaro per fare lo spettacolo, e lì al Teatro Comunale di Catanzaro, che si chiama Comunale ma è privato, poi ci sono queste cose che succedono. Bellissimo. C'era un laboratorio di teatro e sono stato 2 ore e mezza prima dello spettacolo a chiacchierare con i ragazzi. E la cosa che è venuta fuori, perché poi parlando vengono fuori le cose tue che magari conosci anche meno, è che a me piace farle le cose, proprio lì, il qui ed ora che dicevi tu, sì, prima. Non stavo parlando il latino, mi sono guarda che sono. Esatto, però lo stai facendo. Altro livello rispetto a Ciufoli, diciamoci. Ho detto subito, per fortuna la trasmissione risale di tono, tranquillamente. Abbiamo... Perché quando vedi gente come Ciufoli, tu ti senti proprio attirato verso il basso, come nelle sabbie mobili, esatto, diciamo. Spero che ci stia. Io infatti ho detto, non ti voglio più vedere, ma non mi riesce purtroppo, ormai ci legano 50 anni d'amicizia, non posso far finta di niente. Beh, mi piace che tu sia diventato amico molto prima della mia nascita, ho 36 anni, tengo a ricordarlo. È vero, Enrico Loverso ha 36 anni, portati con grandi sacrifici e grandi dispiaceri, che sembrano un po' di più. No, tu ci hai cominciato, c'è 53. Sei carino, sei. Ma c'è 53. Sei un amico. Ah, è giovane, oh. È scritto pure quello. Eh sì, del 64, ho fatto 2 gol. Ho capito, ormai non si scappa da nessuna parte, dai. No, per cui, uno nessuno 100.000, dove starai adesso? Dove vai adesso? Adesso la prossimissima data è Sasso Corvaro, è un teatro... Non lo conosco, pensa. Sarà un teatro dell'italiana meraviglioso, poi sicuramente. Guarda, se tu metti Google immagini Sasso Corvaro teatro. C'è il teatro. C'è solo teatro. Beh, tu dici, ma tutta quest'arte in Italia, ma com'è che non la conosciamo? Esatto. È straordinario, esatto. Bellissimo. Fra Pesaro e Urbino, insomma, quella zona magica dove c'è questa rocca del teatro. Bello. E dentro tutto affresco. Infatti conosciamo prima st'Italia meravigliosa che ogni tanto distruggiamo, ci autodistruggiamo, famose una passeggiata in Umbria, in Sicilia, ma dappertutto, nelle Marche, ma scopri delle cose bellissime, dice questi siamo noi, sì siamo noi, sì. Quando siamo andati pure noi a Pietra Abbondante dico ma dove sta? Nel Molise. E che teatro romano, scavato nella terra. Nella terra con teatro greco, teatro romano. In pietra con gli schienali anatomici fatti circa 2000 anni fa. Sì. No, ma è pazzesco, scopri delle cose e senti le campane. Poi vicino c'è Agnone, che è la città delle campane, dove fanno le campane sacre per tutte le chiese del mondo, soprattutto, insomma, ce l'abbiamo tutte noi con le chiese. Per cui il teatro, io ho visto tantissime cose, dove ti muovi meglio? Ma secondo me, io personalmente il teatro, ma credo anche tu, la gente di fronte. No. La gente di fronte mi diverte tantissimo, ma soprattutto mi diverte la libertà. Immediato. Giudizio non... Lo senti subito, no? C'è no, l'applauso. Sai che cosa? No, io appunto poi ho debuttato in quel teatro in cui ho visto l'Edipo Re da l'hai bambino. Fatto Siracusa. Ho debuttato davanti a 12.000 persone. Sì, a 16 anni. A 16 anni. Bello. E quindi ho avuto un'esperienza traumatica fortissima. Da quel momento in poi non ho mai più avuto tensione in teatro. Certo, sono 16.000 persone, è uno stadio. Assolutamente, 12. 12. Assolutamente una cosa, cioè, ho un livello di tranquillità e di serenità quando metto i piedi sul palcoscenico che non ho mai nella vita. Per cui non temo il giudizio del pubblico, cioè non sento la parola giudizio. Piuttosto, prima dello spettacolo io sto lì all'ingresso a salutare tutti quelli che entrano uno per uno. Ma dai. Sì, sai. Beh, perché sennò non saprei che fare in camerino. Tu mi ci vedi. No, perché a me, tu che mi conosci, non l'ho mai fatto io sta tu cosa. Che mi conosci, sì. Mi ci vedi a concentrarmi, a chiudermi in camerino nella solitudine, ad annoiarmi, concentrarmi. Che fai? No. Che bello. No, però giudicando, io quando non ti conoscevo, e magari va un giudizio su una persona, infatti te lo dissi quando ti ho conosciuto. Hai un'aria molto austera, cioè sei una persona che uno dico oddio Ricolo Verso lo fermo, non lo so, forse meglio di no. C'hai io spero aria... che lo pensino sempre quelli della stradale quando passo lo fermo no. Quanto sei cazzaro. E anch'io ho avuto più o meno lo stesso impatto che tu, cioè il bambino con la carrozzina, ancora mi ricordo per Monteverde camminavi e ti ho visto, ho detto e poi volevo fermarti e farti i complimenti e salutarti perché è sempre un piacere conoscere dei colleghi ai quali fare dei complimenti, no? Uno pensa sempre il contrario e te lo dissi e invece ho scoperto poi uno che in confronto io sono attore drammatico in confronto a te, cioè tu sì. Che vai a salutare la gente all'entrata io non l'ho mai fatto, all'uscita sì. Ma all'entrata non ci ho mai pensato. Ti faccio vedere pure le foto, ce l'ho qua. No, ma ci credo. Fino all'altro se me lo dico. Poi uno nessuno 100.000 ci può anche stare come startup dello spettacolo, no? Chi è adesso? È Ricolo Verso, infatti molto no, spesso un altro. Mi vedono e dico lei qua vado a mangiare una pizza, voi invece che fate? Ah, che bello. Che cosa? No, ma c'è lo spettacolo, deve... sì, vabbè, ma lo spettacolo lei ha letto qual è? È uno nessuno 100.000. Quindi lo spettacolo inizia che ci sono tutti gli spettatori che a turno dicono una parola, una frase del testo. E poi arrivo io e chiudo. E dici, e chiudo. Quindi intanto vado a mangiare la pizza, poi tanto faccio a tempo. E il regista ti ha concesso questa cosa? Di chi è la regia? Di Alessandra Pizzi. E te l'ha concesso? E lei l'ha scritto. La regista lo produce perché uno è 100.000 pure lei. Ah, è vero. Quindi siamo in tre, ci dividiamo tutti i compiti e ci divertiamo. Sono pure autista e manovale di scena. Io ho un'altra cosa, sono invidioso di te, ma anche la gente che mi starà ascoltando. Un giorno guardando Fashion TV, perché ogni tanto uno dà uno sguardo a quelle passerelle, ho visto il backstage di un calendario, il calendario da Pirelli, insomma, uno se lo vede volentieri quel backstage perché vedi sempre quando si preparano, insomma, no? Non sono mai, quasi mai vestite, anzi mai, e vedo con dispiacere, con grande dispiacere, che i protagonisti di questo calendario del 2000... Non mi ricordo di che anno era? 2003. I protagonisti maschili che non ci sono mai stati nel calendario Pirelli siete tu e Alessandro Gassman. Cioè, come è? Mi avrebbe di parolacce e anche delle bestemmie, ma come è successo pure questa cosa? Cioè, sì, tu rappresenti, e anche Alessandro, siete due uomini che possono rappresentare le bellezze diverse. Tu sei molto più greco-mediterraneo di Alessandro. Alessandro... Però che vanno chiamati, ho venito a far calendario da Pirelli. Cioè. Perché avevo conosciuto Bruce Weber in un'occasione a Milano. Uh-huh. Poi grande fotografo. Mi ha proposto un servizio fotografico che non avevo potuto fare. Poi ne abbiamo fatto invece un altro insieme a Palermo. Poi l'ho chiamato per chiedergli il permesso di utilizzare una foto sua, che volevo metterla, forse erano gli inizi di Facebook o una cosa del genere. E lui mi disse, guarda, sto facendo un film, mi piacerebbe se tu potessi venire a lavorare in questo film. E ho detto, no, guarda, non posso perché sto facendo teatro, sto facendo il tram che si chiama Desiderio. Ero a Brindisi quel giorno, mi ricordo. Mamma mia. E disse, vabbè, allora senti, io sto facendo il calendario Pirelli, posso? Ti va di farlo? Io, che da bambino mi chiedevo, chissà mai se un giorno riuscirò a vederne una copia, non dico a tenerla in mano. E mi sono trovato sulla copertina del calendario Pirelli, esatto. Che poi invece, peraltro, io quando ho fatto le foto con lui, ecco lì sentivo il peso del giudizio altrui, certo. Io ero... terrorizzatissimo. Sì, non era il tuo mondo, lì è proprio un altro mondo. Non era il mio mondo, non era il mio mondo. Io so di essere molto fotogenico, però comunque mi trovavo davanti a Bruce Weber, uno dei miei idoli. Fotografo per eccellenza, di fronte a un'operazione mondiale di marketing mondiale. Un'operazione mondiale di marketing con le modelle più belle del mondo. Mondo. Cosa eccetera, e dice, ma perché deve fotografare me? Esatto. No, però cose... ci stava adesso lo dico. E io infatti quando è uscito il calendario non l'ho detto a nessuno che avevo fatto quel calendario perché pensavo sicuramente le mie foto non le usano. E invece no. No, invece in copertina. Certo. E sono il più fotografato, il maschio più fotografato del calendario. Fate la domanda e date la risposta. Io perché quel calendario non vedo più quel backstage. Già posso perché ogni citazione viene spenta poi dal tuo fisico. Che posso dire, posso apprezzarlo. Ma mi sfugge poi ogni momento erotico. Mi scappa lì. So che tu devi scappare. Volevo tenerti un po' di più, ma tanto so che tornerai. Perché siamo arrivati manca a metà carriera. Santa miseria. Siamo fermati. Poi io devo raccontare, l'ho raccontato una volta, che Enrico Loverso ha fatto un film molto interessante in Spagna con Viggo Mortensen, che è La triste, il destino di un guerriero, e lì ci fu il mio incontro con Viggo Mortensen, perché andò così. L'ho raccontata credo una volta qualche anno fa. Telefonata, mentre stavo a casa, mi passano il telefono, sento: pronto, sono Viggo, vieni a mangiare la pizza con noi. Io faccio: chi, Viggo? Viggo Mortensen. Ho fatto: avvata a piander, io sono Matt Dillon, e ho attaccato. Seconda telefonata: sono Viggo, vieni a mangiare la pizza. Ho fatto: senti, io c'ho anche tempo perché da il numero perdere. Di telefono era il mio, ma io non lo sapevo, non compariva ancora. Ancora non compariva. Mi richiama, sento la telecamera: sono Enrico Loverso. Pino: sì, ciao Enrico, ma io sto con Viggo Mortensen che ti ha invitato a mangiare la pizza, ma gli hai risposto male. Ho fatto: ma io che ma posso immaginare che Viggo Mortensen mi chiama? Dopo due secondi stavo lì, tipo Frankenstein Junior, quello: venga giù, è pericoloso, perché strilla, signore? Stavo già davanti al ristorante, e lì ho avuto modo, grazie a Enrico, di conoscere Viggo Mortensen, farmi una passeggiata con lui per Roma. Che poi la gente fermava me, una cosa divertente che credo che tu sappia, te l'ho raccontata l'altra sera al Gran Premio Internazionale del doppiaggio, che per la strada chiedevano di fare le foto a me, perché lui non lo riconoscevano, perché insomma non è facile riconoscerlo senza cavalla, spada, eccetera, senza gli anelli, esatto. E a Campo dei Fiori un gruppo di ragazzi: oh, Pino Insegno, a biondo faccia la foto con Pino Insegno. Lui ha riso, ha preso sta macchina. Io ho detto a questi ragazzi: signori, guarda che quello lì è il signore degli anelli. E quello ha detto: a me che cazzo mi frega, è quello favorefice. Cioè, queste sono state le risposte romane di cuore. Sì. Comunque, amico mio, ti ringrazio, fai buon viaggio, so che fai da una parte molto importante, una cosa insomma di cuore, spero che vada bene, insomma. Un bacio a te, alla tua famiglia, a tuo figlio che si sta muovendo nel doppiaggio, e con la promessa di ritrovarti. Vabbè, vabbè, ormai è grande, si sta muovendo nel senso, ormai quanti anni si muove? 24. Già inizio di prostatite, questo io mi ricordo che era piccolissimo, portavi in culla, santa miseria. Enrico Loverso, signore e signori, continuiamo tra pochissimo con i nostri amici per il contest, l'ultima puntata di questo e contest. E poi vi diamo appuntamento alla seconda parte, perché voglio capire poi che cosa hai studiato. E un sacco quindi di cose. Ci rivedremo un'altra domenica. Mi hai lasciato a metà, mi hai lasciato. Ci vediamo un'altra domenica. Giusto. Sì, mi è rimasta sul gozzo del calendario, Davide, qui mi è rimasto comunque. Faccio finta che sto contento per un amico, non è vero, sono invidioso. A tra poco, poi sanatomi. Voice Anatomy. Eccoci signori miei, bentornati, scusate. Stavamo dando spazio adesso ai nostri ragazzi per l'ultima puntata di questo contest sul doppiaggio, che sta dando la possibilità, grazie a un film della Warner, di poter far parte di questo cast. Allora, lo finiamo oggi, il 3 dicembre ci prenderemo una piccola pausa fino al 10 per scegliere i 12 semifinalisti che vedremo, ascolteremo. Per cui potete anche voi far parte di questo, certo, ragazzi, certo. In bocca al lupo tutta la vita. E quei 12 poi ne accederanno 6 alla finale del 17 dicembre, che di fronte alla Anna Laura Carani, che è la capo edizioni della Warner, e anche magari ci sarà Thomas Ciampa, non lo so, responsabile ovviamente direttore, vice direttore generale o qualcosa del genere, scusate per quanto riguarda le mansioni, però la Warner in toto ha accettato questa avventura, si sceglieranno le persone che faranno parte di questo cast e daremo la possibilità a tutti voi che siete degli attori, giovani, anche meno, voi siete tutti giovani, devo dire, quelli che sono venuti, dare la possibilità di entrare in una sala di doppiaggio per poter cominciare a fare questo. Ma abbiamo la mestiere. Stessa età più o meno. Sì, più o meno, tutte e due insieme sì, tutte e due insieme sì, assolutamente sì. Sommandoli. Chiedo ad Alessandro e a Rachele quando finisce questo blocco per regolarmi anche e 28, bene, ho avvertito anche a casa così, e allora cominciamo proprio con te, che sei il primo della mia vista di fronte a me. Come ti chiami? Lorenzo Ciarlone. Ciarlone, dove sei Lorenzo? Napoli. Napoli, Napoli, Napoli? Sì, quasi al centro. Dove? Dillo, che bello, Napoli è... San Giorgio a Cremano, precisamente. San Giorgio a Cremano, ragazzi, San Giorgio a Cremano, insomma, patria di qualcuno di importante, no? Chi Massimo Troisi. Ecco, l'indimenticato Massimo, scusate, lì ogni volta che si parla di San Giorgio a Cremano e Napoli viene in mente... questo guaglione grande meraviglioso, comico. Sì, come grande attore, sì, un grande generale, uomo, sì. Ragazzi, c'è proprio forse uno che può rappresentare Napoli, sì. Secondo me, in tutto, nella sì. Sua tristezza, nella sua allegria, nella sua maschera. Lui è Antonio De Curtis. Sì, sì, sì, sì, ma ci sono tanti, devo dire che Napoli è stata la patria, è la patria di grandissimi uomini, non solo di spettacolo, insomma, a tutto tondo, perché De Filippo che t'ha fatto? No, no, no, assolutamente per, per sì, dire, anche De Filippo, ma anche le Lorena, sì. Guarda, anche tutta sì, la smorfia completa. Sì, sì. Ma tutti, tutti, Pino Daniele, vogliamo continuare? Un'infinità. Allora, no, Napoli nel cuore. Poi quest'anno, insomma, c'è questa possibilità, voi napoletani capirei, toccheranno tutti gli amuleti che c'ha, che ferro, qualsiasi cosa. Vabbè, potrebbe essere l'anno giusto, dai. E tanto se deve andare va, non è che sì, toccando infatti, i corni può succedere qualcosa di diverso. Tu fai... quanti anni hai intanto? 20. 20, sei giovane, giovane. Hai cominciato, c'è una scuola, stai seguendo dei corsi. Ho fatto un corso di doppiaggio a Roma con Ian Sante e Pedicini. Ah, proprio la voce ufficiale di Radio sì, 24. Sì, sì. Hai scelto una scorciatoia, allora no, no, non c'è scorciatoia. Noi li scegliamo senza sapere nulla di tutti. Però ovviamente la recitazione è importante. Voi sapete che la base di un buon doppiatore è essere comunque un attore. Sì. Poi... bisogna metterla in pratica su un altro corpo. Voi pensate un po' quanto è complicato. Che cosa ti sei preparato? Un brano tratto dal film Trainspotting. Eppure, oltretutto, dovevamo chiamare Christian al telefono per sapere cosa ne pensa, guarda. Puoi chiamarlo, ce l'hai il numero al volo. Se lo beccate... sentite, allora cominciamo dall'altra parte. Se riescono a trovarlo, magari glielo facciamo sentire a lui direttamente. Okay. E tu invece, amico mio? Io sono Alessio Celsa, ho 25 anni e vengo da Palermo. Oh, come l'amico Ricolo Verso. Come lo Verso, sì. E vivo a Roma però da 2 anni. E ti manca, Palermo è meraviglioso. Da morire, da morire. Il mare soprattutto, poi ovviamente la famiglia. A febbraio che si va lì a prendere i ricci, a mangiare i ricci sulla spiaggia, è incredibile. Sì, sì, no. Sì. Poi tanti altri momenti del vabbè, la tua vita, dell'anno. Insomma, ma poi sì, la Sicilia. Adesso andrò in Sicilia qualche giorno in teatro, mi faccio Enna, poi Messina. Quattro giorni sono già a Ragusa, lì è l'unica parte dove... torno volentieri, andrò anche a Reggio Calabria, che è un po' anche la patria di mio padre, insomma, sono vicino a voi, c'è un ponte che non c'è che ci divide in qualche modo. Sì. Che un giorno si farà. Hai visto mai, non ci riguarda sta storia. Tu quanti anni hai? Ho 25 anni. 25 anni, sì. Anche tu ovviamente una base accademica minima ce l'hai. Sì, ho fatto anch'io il corso con Ian Sante Pedicini. Allora, qualcosa va insieme, perché se abbiamo scelto fra le centinaia di persone che mandano i file, eccetera, perché questo bisogna dirlo, sentiamo tutti. Ma loro sono c'è Ian Sante al telefono? Sto guardando Alessandro, se c'è allora cominciamo con quel ragazzo, lo mandiamo in diretta. C'è, allora andiamo in diretta, Cristian. Eccolo, ho detto, sono in autostrada, se cade la linea... E non fa niente, non fa niente, quanto c'è fuori, quanto sei abruzzese quando parli così. Allora c'è un ragazzo che nel contest porta un pezzo e ha fatto anche la tua scuola, due fra gli 8 di oggi. Ciao Cristian. Sono due ragazzi che hanno fatto la vostra accademia, per cui pensa, fra centinaia di file, due sono stati scelti fra i ragazzi che hanno fatto il vostro corso, significa che è fatto molto bene. Però c'è uno dei due che si chiama, ricordami... Lorenzo Ciarlone. Lorenzo Ciarlone che porta un pezzo di Trainspotting e volevo fartelo sentire, così lo giudichi, va bene? Sì, ma tu sai, Lorenzo sa che io sono sempre molto... spietato, eh? No, sì, molto spietato. È strano. Perché vuole rischiare con sta cosa, Lorenzo, stamattina? Cioè, non... Vabbè, ho capito, vai. So già che mi ucciderai. Intanto ha ucciso pure quelli dei Walking Dead. Sì, tutti. Stupiamolo, allora. Adesso abbassa la voce, alza la radio, vai con la base. La gente pensa che si tratti di miseria, disperazione, morte, merdate del genere che pure non vanno ignorate. Ma quello che la gente dimentica è quanto sia piacevole. Se no, noi non lo faremmo, in fondo non siamo mica stupidi. Almeno non fino a questo punto, e che cazzo. Prendete l'orgasmo più forte che avete mai provato, moltiplicatelo per 1000. Neanche allora ci siete vicini. Quando ti buchi hai una sola preoccupazione: farti. E quando non ti buchi, di colpo devi preoccuparti di tutto un sacco di cazzate. Non hai soldi, non puoi sbronzarti. Hai soldi, ma bevi troppo. Non hai una passera, non scopi mai. Hai una passera, ma rompe le palle. Devi pensare alle bollette, al mangiare, a qualche squadra di calcio di merda che non vince mai. Ai rapporti umani, a tutte quelle cose che invece non contano quando hai una sincera e onesta tossicodipendenza. Eccolo qua. Allora, Lorenzo, ma non stai in chiesa, Lorenzo, sei un drogato convinto, non gli prega niente di convincere gli altri, lui la racconta come la cosa più normale del mondo, sì. Troppa enfasi, Lorenzo, troppa enfasi, il resto non era male, hai imparato la dizione, articoli, troppa enfasi, io l'asciugherei un po'. Ecco, proprio se vogliamo molto più secca. Un po' più secca, un po' più secca. Sì, capito? Infatti nel film tu la fai molto secca. Vaffanculo, quello oh Cruciani, non ti devi giustifica il drogato, non si giustifica, capito? Giusto. Questo. Si è mai giustificato gli alzante? Mai. E allora mai. Non si giustificare neanche tu. Cristian, va bene, non te la faccio fare a te perché non si sente benissimo, sennò rovineremmo un ricordo meraviglioso. L'hai già fatta in maniera sublime. Buon viaggio, Cristian, grazie. Ciao, Cristian. Salutami ciao, Walking Dead, che lo ami tanto. Sì, è vero, lo amo tantissimo. Ciao. Bene, ho avuto anche un testimonial d'eccezione. Sarebbe bello con i testimonial al fallo. Diventerebbe la serata finale di Sanremo. Con... Mi aspettavo già, mi avrebbe ucciso. Ma lui è vero, è uno vero. Insomma, sempre adesso così. Poi deciderà qualcun altro. Sì, sì. Ti ripeto, devi ripetere il tuo nome, cognome e il titolo del brano. Ok. E partiamo. Alessio Celsa, The Libertine. Consentitemi di essere esplicito sin dall'inizio. Non credo che vi piacerò. I signori proveranno invidia e le signore disgusto. Non vi piacerò affatto. Non vi piacerò ora e vi piacerò ancor meno in seguito. Signore, un avvertimento. Io sono pronto a tutto. In ogni momento. Che sia merito o demerito quest'ora è difficile da dire. Tuttavia è certo che sono un libertino. Continuerò a spassarmela e a provare ardenti passioni. Non doletevene. Vi auguro di provare le stesse sensazioni che ho provato e che provo, e chiedervi: era questo lo stesso brivido che sentiva lui? Avrà conosciuto qualcosa di più intenso? O c'è un muro di disgrazia contro il quale tutti battiamo la testa in quel fulgido, eterno momento? Sono John Wilmot, il secondo conte di Rochester. E non ho alcuna intenzione di piacervi. E questo era Johnny Depp? Sì. Nel film The Libertine. Bene, va bene, no, l'addizione si sente, voi siete giovani. Lui è molto più giovane, insomma, molto. Sì. 20 anni e 25, sono ancora molto vicini. Sì. Come anni? Va bene, va bene. L'importante è, ecco, non avere delle sovrastrutture, non andare troppo a imitazione. All'inizio sì, perché anch'io l'ho fatto, ovviamente. E poi bisogna far proprie certe metodologie, finché non si ha la dimestichezza del verbo, della parola, della dizione, in un certo modo non conviene cercare la bella voce che stupisce, il bel modo di dirlo, ma il modo giusto di dirlo. Sì. Deve assomigliare a voi, in certo, qualche modo. Certo. Poi ovviamente quando dovete doppiare un film deve assomigliare a lui. All'attore. A lui, per cui essere plastici da questo punto di vista. Va bene. Signori, grazie, siete stati i primi due, adesso sentiremo gli altri quattro, no? Sono sei in tutto quest'oggi, se non sbaglio, altri quattro ce ne sono, sì, altri due, siete in quattro, vabbè, scusatemi, è stata una scelta, o non si sono presentati, non lo so, va bene, signori, grazie. In bocca al lupo per la vostra carriera, vi faremo sapere sicuramente nel bene o nel male, perché è giusto che sia così, non bisogna rimanere abbarbicati a qualcosa che poi magari non avverrà. Noi ve lo diremo. A tra poco, signori. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei. Eccoci qua alle 15:32 minuti. Abbiamo gli ultimi due quest'oggi, gli ultimi due di questo contest che sta durando da settembre, ottobre, novembre, tre mesi. Ne abbiamo ascoltati, vagliati più di 2000, ascoltati circa 100 e adesso 12 di voi saranno presenti il 10 dicembre qui per la semifinale. Insomma, non vuole essere il talent che approfitta di voi, ma può essere un contest che può aiutarvi ad entrare in un mondo importante. È già molto bello essere qui. Anche questo è vero, anche questo sono d'accordo con voi, siete a Radio 24, avete la possibilità di fare l'inizio, rompere il ghiaccio della vostra carriera in un modo magari molto, molto interessante e molto intenso. Cominciamo da te, amico mio, giovanissimo anche tu. Quasi. Sembri più giovane allora. Sembro più giovane. Ma quanti anni hai? 29. Sì, è vero, cioè, ormai è finita per te. È tutta una discesa verso gli inferi. E allora, che tu di dove sei? Mi chiamo Marco Altini e vengo da Bari. Vivo a Roma da un mese e mezzo. Però abbiamo perso un po' l'accento, l'abbiamo studiata la dizione. Un pochino sì. Un pochino. Dobbiamo salvaguardare i nostri dialetti che sono delle lingue straordinarie, però dobbiamo poi mettere da parte quando si tratta. L'importante è controllarlo, no? Sì, perché ecco, maledetto! Può saltare all'improvviso e essere presi dal Daziolino Banfi che ci entra dentro. Sempre. No? Sempre, sempre, è una persona meravigliosa. Io spero di averlo presto in questi, attraverso questi microfoni di Radio 24. Cosa hai preparato? Ho portato un monologo di Anna e le sue sorelle, Woody film Allen. Di Woody Allen, sì, il monologo con cui, diciamo, attacca le persone che fanno jogging. Esatto, lo farai alla Oreste Lionello, alla Woody Allen, o hai fatto un modo tuo? Una via di mezzo, perché quello è... Poi la voce film. Leggera ce l'hai, per cui va bene, insomma, che ti, vi ripeto, non è importante la bella voce, ma utilizzare delle belle intenzioni, tutto lì sta. E allora, ti ripresenti nome e cognome, il titolo del brano, e vai. Marco Altini, Anna e le sue sorelle di Woody Allen. Milioni di libri scritti su ogni concepibile argomento da tutte queste grandi menti e alla fine nessuno di loro sa niente più di me sui grandi misteri della vita. Ho letto Socrate, sapete, ma schiappettava i ragazzini greci, che diavolo ha da insegnare a me? E Nietzsche, con la sua teoria dell'eterno ritorno, diceva che la vita che noi viviamo la vivremo ancora, ancora e ancora, e esattamente nello stesso modo per l'eternità. Splendido. Questo significa che io dovrò vedere ancora Holiday on Ice. Non ne vale la pena. E Freud, un altro grande pessimista. Gesù, sono stato in analisi per anni e non è successo niente. Il mio povero analista ne fu così frustrato che alla fine trasformò lo studio in un self-service vegano. Guardate questa gente che fa il jogging, che cerca di sottrarsi all'inevitabile decadimento fisico. Ragazzi, che tristezza quello che passa la gente con le ciclette, con la ginnastica, con... Guardate quello, poverino. Mio Dio, deve portare dietro tutto quel grasso. Dovrebbe spingerlo su un carrello. Forse hanno ragione i poeti. Forse l'amore è la sola risposta. Carino, c'è una tua interpretazione leggera, delicata, educata di quello che stai guardando dalla finestra. È carino, perché lui poi ha quelle incertezze. No? Sì. No, no, no, questo vuol dire che io dovrò vedere Holiday on Ice. Oso dire la mia. È bellissimo, un grande. E invece da quest'altra parte, prima di... Abbiamo ancora qualche minuto, vero, se non sbaglio, Alessandro, prima di... entrare con Donatella Pandimiglio in un'altra puntata di queste pillole per imparare un po' a cantare e a respirare, che è la cosa più importante, certo. Non soltanto per chi vive, dice, beh, vabbè, se uno non respira muore, è vero, ma saper respirare bene significa controllare la propria fisicità, le proprie emozioni e, nel nostro caso, anche recitare nella maniera migliore. Anche tu, giovanissima? Sì, sono Valentina Mauriello, ho 24 anni e vengo da Napoli. Napoli, sì. Anche tu da Napoli, anch'io. Bella. Napoli, anche tu? Fuori grotta. Fuori grotta. Senti com'è uscita fuori. Fuori grotta. Fuori grotta. Volendo, però. Vabbè. Esatto. Perdonami, io so soltanto il suono napoletano, ovviamente, e Tunnino. È difficile, insomma, non è facile. Si capisce quando uno non è romano e non è napoletano, perché sennò... E tu invece vivi a Roma adesso? Sei sempre a Napoli? Sì, vivo a Roma da un paio d'anni e lavoro qui per studiare doppiaggio e recitazione. Ok, con chi lo stai facendo? Stai facendo con... Ho studiato con Carlo Valli e Dante Biagioni. Un povero Dante, sì. Che abbraccio, sarà laggiù nel paradiso degli attori doppiatori, anche lui insieme a Mario De Angelis, e quest'anno ci hanno salutati dei grandissimi. Carlo Valli ha vinto poi al Gran Premio Doppiaggio Miglior Direzione per Barriere, guardatelo quel film con Denzel Washington, anche Pannofino si è portato a casa la statuetta, meritatissima devo dire. Che cosa hai preparato? Un pezzo di Scrubs. Scrubs, che è questa serie sui medici, se sì, non sbaglio, esattamente. Una delle prime serie. Simpaticissima, una delle prime serie, esatto. Ok, anche tu una vocetta delicata, carina, brillante, vediamo. Cioè, hai musica sottofondo o qualcosa? No, perché non serve in questo caso. Allora ti ripresenti nome e cognome e vai col pezzo. Valentina Mauriello, Scrubs. Lascia che ti racconti una storia. Inizia ogni mattino alle 5, l'ora in cui tu ti stai facendo la messa in piega per venire al lavoro. Quando a un certo punto vengo svegliata da un tremendo suono. È forse un gatto sventrato con un coltello da pescatore? No, è mio figlio. Ha fame ed è talmente pieno di cacca che sto pensando che dovrei assumere uno stalliere, ma vado avanti e mi do da fare perché lo adoro e, caspita, mi conosci, sono una filantropa. E corro in ospedale, dove la mia coppa è ricolma sia di colleghi di qualità come te, per esempio, che di qualcosa come un autobus nell'ora di punta pieno di malati. Ma per la miseria! Mi pagano più o meno quanto uno che spacca sassi con un sasso e lavoro solo 300 o 400 ore alla settimana, quindi in fondo non posso davvero lamentarmi. E poi finalmente vado a casa, dove mi accoglie il sottile aroma di vomito infantile in una casa che prima odorava di... niente! Niente, in effetti non avevo assolutamente nessun odore. E tutto ciò che voglio fare prima di ritornare a casa e ricominciare quel glorioso ciclo è solamente stendermi sul divano, guardare un programma sportivo con una birra in mano e, se non sono troppo sudata per il duro lavoro, mettermi una mano nei pantaloni. Ma a quanto pare questo non è quello che Jordan definisce fare la mia parte. Quindi ecco qua, Pivello. Ora tocca a te. Beh, è carino che me l'hai indicato a me, quello di meno tocca a te, ma insomma è sfrontata. Beh, complimenti. Grazie. Sei navigata, bellissima dizione, rapidità, questo non vuol dire niente, è un giudizio mio che poi ovviamente interverranno altre persone insieme a me, però mi sembra che tu abbia già una grande dimestichezza, almeno con la recitazione, con la dizione, con l'impostazione, cambiando anche voce, andando su dei toni bassi molto interessanti, questo significa che sappiamo giocare un po' con la nostra voce. Grazie. Bello, no, molto, molto divertente, veramente. Sono arrivati circa 28 messaggi su Alessio Celsa. Mo, che io capisco, non è per... bisogna dire che non si vota da casa, cioè come X Factor, altrimenti Alessio Celsa avrebbe vinto la puntata di Voice Anatomy, perché ne erano arrivati una quindicina di messaggi finora, che poi io ho letto poco, ma su Alessio Celsa è stato una... cioè, non so se... cioè, una è mamma, una è zia, l'altro è tuo cugino, no, non lo so, non l'hanno firmato ovviamente. Bravissimo, unico, Celsa, quel ragazzo che ha fatto The Liberty, un fenomeno. In bocca al lupo, amico Celsa, per la tua carriera. Bellissima interpretazione, Alessio Celsa. Alessio Celsa, bravissimo, bravissima Alessio Celsa. Celsa Alessio, ottimo. Buone le pause e l'intensità di Alessio Celsa. Alessio Celsa, bravissimo! È uno che dice parli solo te. Ogni tanto a me mi dicono sta cosa. L'unica cosa negativa è a me, l'hanno detta a me. Ha capito? Questo è quanto. Comunque, Alessio Celsa, se eri stato a Sanremo eri arrivato in finale, ma qui purtroppo decidono altri, però è bello che tu abbia tutto questo seguito. Signori, siamo arrivati alla fine di questo blocco, in questo ultimo minuto, volevo ricordare il grande successo del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, grandi professionisti. Mi dispiace che un paio di cento persone sono rimaste fuori, non è dipeso da noi, ovviamente c'è stata una richiesta molto alta. Pensavamo di avere anche una sala più grande, ma la sala era già di 1300 posti. E vi chiedo scusa io personalmente, anche se non dovrei essere io, però vi chiedo scusa io se qualcuno, facendo anche un viaggio importante, è rimasto fuori da questo Gran Premio, nonostante sia stato uno streaming. Ci riprenderemo il prossimo anno. Vi ringrazio per l'affetto che ci avete dimostrato e che dimostrate a questa bellissima professione, dove esiste una parola chiave, che è la meritocrazia, dove tutto è dato soltanto a chi merita, non agli amici degli amici degli amici. E io spero che con voi succeda la stessa cosa. In bocca al lupo, ragazzi. Noi viviamo l'ultimo blocco insieme a Donatella Pandimiglio e poi ci salutiamo per risentirci la prossima settimana. Un abbraccio, a tra pochissimo. Dai, Deborah, racconti la borsa tutto il giorno, dammi un titolo. È meglio il petrolio che sale o il dollaro che scende? È arrivato, se lo sapessi avrei gran soldi in Svizzera, per cui mi servirebbero i tuoi consigli per fare la voluntary disclosure. La voluntary disclosure è meravigliosa, ma ne abbiamo tante di questioni da chiarire agli ascoltatori. Sì, perché non sono temi difficili, noi dobbiamo essere autorevoli. E leggeri. Sai, dobbiamo parlare con quella certa autorevole leggerezza. Bravo! Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Tutti i giorni alle 11 su Radio 24. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, come dico sempre, ed è tornata anche lei, Donatella Pandimiglio, per la terza puntata di queste pillole, questi tutorial sulla... non sulla salute vocale come fossi, ma questo è proprio sul canto. Stiamo tentando di... E oggi vi do... Oddio, che è successo? Buona domenica. Ma perché si traveste da cicciolina, Donatella? Perché l'altra puntata siamo... Abbiamo chiuso, ricordi che abbiamo parlato della voce con il fiato? Con il fiato, esatto. Ecco qua, e quindi oggi ho iniziato così. niente, confidenziale. Cambia mestiere. Una persona cambia all'improvviso. Così. Vedi che Nicola Piovani non ti chiama più, Benigni non ti chiama più, non lavorerai più con nessuno, nessun musical farai più. Dice, è cambiata, lavora la notte, non si sa, col telefono. No. Insomma, abbiamo parlato dell'ispirazione in queste due puntate, l'ispirazione con naso, narici belle aperte, non far sentire il suono dell'ispirazione, poi con la terza narice che è la bocca, esatto. Ed è un esperimento più difficile, sempre seduti in pizzo alla poltrona. Questo vi insegnerà ad allargare questi polmoni, a utilizzare il diaframma anche involontariamente, si allarga tutto, anche il costale si allarga, entra moltissima aria e poi ci ha detto anche che non bisogna poi buttarla fuori tutta quanta ora con una parola. Esatto, allora oggi vediamo proprio la espirazione. Esatto. Allora, facciamo ripasso esercizio, quindi inspiro. Naso, bocca. La prima volta buttiamo fuori l'aria tutta insieme, sgonfiando. Via. Lo facciamo due o tre volte così. Ok. Vi può girare la testa, abbiamo detto. Vi può girare la testa perché non fatelo a casa. Fatelo a casa, sì. Non è, comunque seduti, ecco. Che fatelo a casa, più vi sdraiate poggiati dietro. Sì, vabbè. Allora, poi passa subito. Allora, adesso dobbiamo fare attenzione ad una cosa, una parolina che vi può sembrare stranissima, alla sospensione apneica. Sospensione apneica. Che cos'è questa cosa? Allora, inspirando, alla fine dell'ispirazione, che si deve fermare dov'è lo sterno, non deve superare le clavicole. Quindi quando noi abbiamo fatto questa... Ma vi verrà naturale se la fate profonda. Lo sterno sta... Qua, al centro. Non è esterno, no, è lo sterno. Sterno, no? Diciamo. No, ma loro sono bravi, sono sterno. Io l'ignorante. Allora, diciamo al centro del petto. Del petto, proprio qua. Vi fermate là. E dovete fermarvi, cioè quando arrivate alla fine dovete restare sospesi senza chiudere la glottide, la gola, che tutto, vi viene istintivo, cosa per restare fermi viene istintivo di chiudere come quando andiamo sott'acqua, di fare questo. No. No, perché quando si canta, se io chiudo la gola... Ma anche quando si parla. E quando si parla, ovviamente, si recita. Comunque, non dobbiamo respirare e passare da una chiusura della gola. Perché mai. Si dice c'è un nodo in gola, perché sei emozionato, perché c'hai l'ansia. Allora, parli in questa maniera e si sente quando... Perché l'ansia... infatti, questa respirazione aiuta. È fatta anche per sbloccare l'ansia. Quindi è consigliata anche prima di andare in scena, veramente. Ma anche prima di fare un discorso, prima qualcuno... Di qualsiasi prima, cosa. Ma anche parlare... Un incontro di lavoro. 4-5. Respiri, ma anche un incontro amoroso. Certo, non devi far vedere che sei emozionato. Anche no. Prima dell'incontro, prima dell'evoluzione, prima. Quando si arriva anche alla fine, cioè quando si sta per cominciare quello che... Vabbè, poi lì sei coinvolto. Lo so, però 4-5 respiri prima bisogna farli. Noi maschietti dobbiamo farli. Vabbè, questa è una cosa maschile. In pizzo, a letto. No, 4-5 respiri. Però, mentre lei va un attimo in bagno, ecco. Voi mi mettete in pizzo a letto, 4-5 respiri e affrontiamo l'avventura. Però se ti trova in sospensione apneica, la vedo in difficoltà. Esatto. Poi dice, oddio, è rimasto già senza fiato, ma visto nuda. Gli è preso già un coccolone. Ma devono essere dei tutorial sul canto, vabbè. Però poi vedete che poi si è declinato in tutto, insomma, questo per giocare anche un po', ovviamente. Certo, quindi allora, questa sospensione apneica, dopodiché dobbiamo soffiare un soffio forte come se ci dessero un pugno nella pancia. Un grande pugno nella pancia. Allora, all'inizio, chiaramente questo è molto forte. Facciamolo per un po' di volte così. Poi dobbiamo piano piano imparare a fare dei soffi diversi. Perché in base a come soffiamo, poi in proporzione vi dirò che questo modo di mantenere l'aria più o meno rapidamente corrisponde anche a, in qualche modo insomma, anche a come si esprimerà l'aria attraverso l'uscita del suono. Certo. Quindi diciamo che, ammesso che abbiamo capito come si fa questa cosa, vediamo di capire come fare invece un soffio più lungo, non solo il pugno. Allora, il pugno vi fa capire che dobbiamo comprimere gli addominali, certo, a favore dei polmoni. Perché? Immaginiamo che questo apparato respiratorio sia come un palloncino dei bambini. Che cosa succede? Se io, quando prendo il respiro, come abbiamo fatto all'inizio per rilassare, gonfiamo il palloncino e poi... in un soffio allento tutto, è come il palloncino del bambino, sganciamo il nodino e che cosa fa? Sì, svolazza un po'. Fa proprio questo suono. Mazza, sei bravissimo. Hai sentito Donatella Vandimiglio nell'imitazione del palloncino. Qualche capernacchietta. Bravo, bravo. Così, fa però in un attimo, si sgonfia in un attimo. E quindi lo perdi subito. Certo. E allora noi abbiamo detto che dobbiamo incamerare tanta aria. Se la perdiamo subito, esatto, è inutile che l'abbiamo presa. Gestirla. È come riempire una Ferrari di benzina, fare un buco nel... Che è uguale comunque. Che è uguale a presa Ferrari, pure se riempi di benzina. Quella come dopo un chilometro come accendi. Ha fatto il palloncino. Allora, diciamo non il Ferrari, la 500, prendiamo la 500. Che insomma, che... nell'immaginario collettivo è una macchina che conosciamo tutti. Che tutti, e che ce l'ho anch'io piccola, sì, una macchina piccola, una splendida 500. Ecco. E effettivamente, se noi buchiamo il serbatoio, cade tutta la benzina, certo, e non possiamo camminare. Quindi il concetto è questo. Allora, capito questa cosa, vuol dire che quel pugno vi fa capire che noi dobbiamo sostenere, altro termine, sostenere dal basso verso l'alto. Questo attiene solo agli esercizi di respirazione, certo, perché poi quando arriverà il suono c'è un'altra cosa ancora, che non vi anticipo. Quindi facciamo sentire. Mi si sta sgonfiando, che non è il solco e dice oddio è entrata un si attimo, c'è un fruscio, mette, dice, si mette, cioè, oddio, in ascolto, è un fruscio, no, in macchina dice oddio, ho perso la sintonizzazione, esatto, no, sento era, un fruscio, era il respiro lento in emissione, il soffio di emissione che avete sentito deve essere uguale e costante. Quindi che cosa abbiamo capito dal pugno? Col pugno abbiamo capito che la pancia si stringe, però si stringe in un colpo solo. Certo. Allora immaginiamo che questo pugno lo prendiamo a rallentatore e quindi sentiremo i glutei e gli addominali che devono venire su lentamente finché non si stringe la vita. Quando arriviamo a sentire la pancia che si chiude sotto al diaframma, ci fermiamo perché abbiamo ancora aria e dobbiamo renderci conto che l'aria ancora sopra è rimasta. È vero. Poi vi farò capire perché è interessante questo con il suono. Certo. Aspetta, c'è un altro brano tuo per far sentire, insomma, che bene o male tu ultimamente hai fatto 2000 musical. Ne ho fatti, sì, ho fatto diversi recital, ho fatto diverse cose. Allora, prima vi ho detto che mi hanno... La scorsa volta che Nicola Piovani, abbiamo ricordato la tua grande... continuo lavoro da 20 più di 20 anni, sì, dai 7 re di Roma, quindi parliamo, esatto, dell'88, quindi sono quasi 30 anni. E quanto t'ho amato questa versione bellissima, che anche il grande Roberto dice mi ispiro alla Vandimiglia adesso. Nella versione, sì, infatti, quando l'ha rincisa e poi è diventata, sì, sì, vabbè, diventata la sigla di Marzullo. Anche sì, quando canta il pezzo via, via, via di qui, eccetera, sì, non è che sia intonato, però insomma. Poi infatti parleremo in una puntata, parleremo anche della interpretazione. Dai, fammi sentire un pezzetto. Allora, vi ho detto, vi ricordate l'altra puntata, mi pare, che mi hanno paragonata, insomma, certo, ad una grande che per me è stata la mia pietra di paragone, che è Barbara Streisand. E in questo brano che vi faccio sentire si uniscono un po' due grandi cose. Lo ha reinterpretato lei in un concerto del 94. Il brano si chiama As If You Never Say Goodbye, ma in realtà è un brano tratto da Sunset Boulevard, che è un musical che io Weiss. Ho avuto l'onore di fare come unica interprete italiana, e in America l'ha fatto Glenn Close, quindi sì, insomma, eravamo io, te, Barry White e Glenn Close. Esatto. Vai. As always. Everything's as if we never said goodbye. Ce ne sarà una. Eccola qua. Sì, che ecco, bella, peccato non poterla sentire tutta. Ma questa Barbra Streisand l'ha presa dal musical. Sì, sì, apriva il suo concerto che ha fatto nel 94, tornando dopo tanti anni. E infatti poi. Pure tu devi tornare, non fra tanti anni. La prossima settimana dobbiamo dare la linea. Bene, allora la prossima domenica. Certo, finché possiamo approfittare della tua grande esperienza, della tua grande professionalità, tu resterai con noi, come i nostri radioascoltatori molto fedeli. Vi ringrazio davvero per volerci così bene. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie a tutti questi straordinari collaboratori qui a Roma e a Milano. Noi, come sempre, ci sentiamo domenica prossima. Sono stanco degli esperti, degli opinionisti, delle menti illuminate, dei polemisti, dei cattivelli e dei buonisti. Non mi interessano i liberati, gli emancipati, i saggi e i timorati. Mi annoiano i cinici, i brutali, gli spregiudicati e gli immorali. Sbadiglio quando ascolto i mangiapreti, come pure i clericali. Non mi convince chi difende i valori come chi inneggia i pastori. Non mi divertono le vergini vestali, ma nemmeno i libertini plateali. Che faccio nel mio tempo libero? Parlo alla radio, ascolto chi mi ascolta ogni giorno per il solo piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog, il piacere del dubbio, dal lunedì al venerdì, dopo l'informazione delle 12 su Radio 24.